Cruciani. Lo so, Cruciani, che tu non sei Giannino, non sei Marisoni. Andare alla Zanzara porta sfiga. Se ti avrei mezzo alle mani, a polpette ti farei. Tu stimoli andare al cesso. Se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma ti avete rotto i coglioni con questo programmino. Ma chi avete mai lavorato? Ce vado io, ma ce l'hai tu. Non mai lavorato in vita vostra, andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. A volte ritornano e non conoscono pietà. Perché sei così? Perché sono uno stronzo. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Siamo alle ultime puntate di questa trasmissione che ha fatto scalpore e purtroppo non sulla Zanzara, sai, la trasmissione di Radio 24 che ci blobbava spesso e volentieri, perché sono ancora in panciolle. Io non so se in questi giorni ritorneranno dalle vacanze, ma con lo stipendio che hanno preso Parenzo e Company si possono permettere delle super vacanze e sai, senza la loro trasmissione mi sento orfano perché non c'è più nessuno che mi blobba e mi sputtana. Pronto? Davide, ti dico subito una cosa. No, caro sì. Davide, questa era Varin, ti dico subito una cosa. Sì. Sai che si è parlato molto in questi giorni, ero in vacanza, ero in panciolla, come dice Varin, della questione di nuovo dei matrimoni gay, le adozioni, eccetera, eccetera. Allora, la domanda però è questa, fermi tutti, la domanda è questa. Se è consentito al conduttore Carlo Genta di sposarsi a Las Vegas, conduttore della trasmissione di sport Carlo Genta, mio carissimo amico, di sposarsi a Las Vegas, se è consentito a Pierluigi Pardo di sposarsi, perché si sposerà l'11 ottobre, attenzione, l'11 ottobre prossimo, con testimone Cassano, amici miei. Beh, Cassano, dovrebbero annullare il matrimonio secondo me. Beh, per la sola presenza di Cassano, secondo me qualcuno arriverà ad annullare, a chiedere l'annullamento del matrimonio di Pierluigi Pardo. Allora, se è consentito a Pardo di sposarsi l'11 ottobre, testimone Cassano, se è consentito a Genta di sposarsi con una simpaticissima e geniale imprenditrice ucraina a Las Vegas, allora, amici miei, credo che non il matrimonio gay, il matrimonio tra animali, tra animali. Comunque siamo tornati, è tornato anche Beppe Grillo che chiede il circo massimo a Marino, secondo me giustamente. Circo chiede, il circo e basta, quello che ha fatto. Che cosa? No, il circo e basta, chiedo il circo massimo, il circo e basta. Vabbè, non ce ne frega quante niente. Quante cose abbiamo da dire sul signor Grillo e il signor Di Battista in questa estate in cui mi avete silenziato a parlare di Medio Oriente, mentre il signor Di Battista... Ma dove sei stato? Dopo tu? Te lo dico. Mentre il signor Di Battista lisciava il pelo al signor Califfo, quello che sta mettendo a ferro e fuoco il Medio Oriente, il Califfo, capito? Voleva andare a parlare col Califfo, il signor Al-Baghdadi. Fammi arrabbiare subito perché oggi volevo essere moderato, tranquillo. Ma perché sei arrabbiato con Di Battista? Perché arrabbiato con Di Battista. Lo streaming col Califfo voleva fare, lo streaming. Ma tu ti immagini quello che taglia la gola a chiunque, arriva a Grillo e dice, ma signora, facciamo lo streaming. Ma non ha la deve decidere la rete se c'è il califfato. Quello arriva e dice, vieni qua caro Grillo, cosa dici? Oh, vieni qui, taglia la testa, subito. Vabbè, comunque sulla questione del Circo Massimo c'ha ragione, il signor Grillo, cioè bisogna dare sto Circo Massimo ai grillini. Vogliono fare il comizio al Circo Massimo. Perché cincischia questo Marino? No, certo, perché deve, non ha detto di no, ha detto che ci sono delle regole da rispettare. Vabbè, okay, ma gli hanno dato una commissione. Fammi sentire Grillo, poi parliamo di cose di attualità. Fammi sentire un attimo Grillo. Quale commissione? Diamo sto Circo Massimo la commissione, dai, su. Mick torna da noi, Mick con i Rolling Stones tornate, dobbiamo fare una grande manifestazione come Movimento 5 Stelle al Circo Massimo, se non tornate voi, Marino, il sindaco, non ci dà lo spazio, tornate così Marino torna alla seconda giovinezza, Mick per favore, sai che... Vabbè, ovviamente non tornerà, Mick Jagger non ha nemmeno ascoltato queste parole di Grillo. Oggi è successa una cosa, caro Parenzo, su cui io ho delle idee un po' diverse dalla grande massa che vuole i Marò per forza in Italia. Con tutto il rispetto per quello che sta male, per carità, ha avuto un'ischemia, il signor La Torre, come si chiama? La figlia di La Torre ha detto che l'Italia fa schifo perché non fa tornare i due militari, che però non erano lì in gita di piacere, cioè non sono due turisti per caso. Sono successe delle cose, hanno sparato a due pescatori, ci sono processi in corso, eccetera, eccetera. Mi sembra che nei confronti dell'India, qui la voglio dire grossa, si usi un po' di razzismo, di sano razzismo, secondo loro. No, nei confronti dell'India. Dell'India. Cioè, l'India dici fa bene a tenersi Marò? Io non ho detto che fa bene, dico che l'India è considerata una sorta di paese del quarto, quinto, sesto mondo. Ma scusa, l'India fa il suo. Dopodiché è ovvio che il nostro paese, visto che ci sono due cittadini italiani che sono là trattenuti. Sì, ho capito, ma non è che adesso la figlia di La Torre può andare a scrivere su Facebook o su internet dove diavolo ha scritto che l'Italia fa schifo, un paese di merda, perché l'Italia non fa tornare il padre e l'altro collega. Ma scusa, sono due italiani, ho capito, uno stato ha detto sua... anche, aspetta forza. Perché tu ti arrabbi su questo, tu ti arrabbi, certo, ha detto anche la signora La Torre, che è una ragazzina di 19 anni, per carità, vabbè, va benissimo, vale il papà, no, caso, giusto, per carità, no, ma va bene tutto, ha detto anche che voi fate entrare gli immigrati, cioè fate venire gli immigrati, paese di merda Italia, ha detto, fate venire gli immigrati e non riuscite a portare a casa, vabbè, questo padre. È il dolore di una figlia, è una stupidaggine, ma 18 anni, è il dolore di una figlia, questo è evidente, lo Stato italiano deve fare di tutto per riportarli a casa, però che c'entra, siamo italiani o no? O siamo... Allora, uno spaccato di società italiana sulla questione dell'adozione del gay da parte di due lesbiche, noi siamo a favore di questa cosa qui alla Zanzara, adozione, anzi io perché tu no, adozione, capito? Basta un semplice tratto di penna, una scritta sui codici. Uomo, donna, sono come uomo, donna, uguale, tutto uguale, adozione, matrimonio, basta una semplice riga, non leggi, discussioni, una riga ed è tutto uguale, uno spaccato di società italiana. Meglio un orfanotrofio che con un gay. Ste deformazioni non devono esistere. No, secondo me non esiste, perché gli danno un'educazione sbagliata, cioè, crescono male e dopo li prendono per il culo. Io sono contro i gay. Per me Hitler ha fatto un grande sbaglio, non finire il suo operato. Uno spaccato, ma di società è? Italiana. Ma da dove è stato preso questa Radio Padania? Dov'è? No, dov'è Radio Padania? No, questa antologia di ben pensare. Di chi è sta roba? Cos'è? Ma non abbiamo parlato dei 1000 giorni annunciati da Renzi? Come mai, secondo te? Come mai? È una cosa di una depressione. No, voglio parlare dell'Ucraina. Io ho invitato come ospite il filosofo Todorov. Senti, non mi rompere i coglioni con questa storia dell'Ucraina. Qui non si parla di Ucraina, tranne quando si parla di nazisti o stragi, uccisioni, eccetera. Allora, io voglio capire, allora ci sono dei signori che sono andati a protestare contro Farinetti, non mi toccate Farinetti con Italy, come incazzo, eh? Senti questo signore che ha detto, ma perché non pensano a trovarsi un altro lavoro? C'hanno dei contratti interinali che non sono stati rinnovati, no, giusto, uno viene assunto con un contratto a 30 giorni, a 60, a 90, a 120, certo. Cioè, dopodiché un'azienda ha tutto il diritto di non rinnovare questo diavolo di contratto. Ti può dispiacere se non lo rinnovano, certo, però, per carità, anzi, tutti dramma, siamo tutti con le lacrime, il dramma, non ce ne frega, lo dobbiamo dire, ma non ce ne frega nulla, Beh, no, niente. Perde lavoro. Lo dobbiamo dire per forza, ma non ce ne frega a me niente. Chi perde il lavoro. Va bene, dispiace, va benissimo, scusa. Lo dobbiamo dire. Sì, vabbè, ma tu fai. Che dobbiamo. No, ma fai finta di dirlo. Fai finta, tanto non ce ne frega niente. Io lo dico davvero. No, ma tu poi pasteggi, fai vacanze, te la vivi, eccetera. Però va bene, fai finta di dirlo. Sì, mi dispiace che quello perde il lavoro. Allora. Poi non te ne fotte nulla. Ma non però è, lo dobbiamo non dire. Ho capito, ma devo. Perché non devo andare in vacanza. No, invece io vado oltre. Non dico che me ne frega qualcosa, cioè non me ne fotte nulla. Lo dico, me ne sbatto. E non solo dico questo, dico non andare a protestare contro Farinetti dicendo che è uno squalo capitale. capitalista e non è un santone, perché fa il suo lavoro, vuole rinnovare un contratto, non lo rinnova. Dà posti di lavoro in Italia o no questo signore? Cosa ha fatto? Sentiamo questi qua che protestano davanti alla sede di Italia a Firenze, un signore, uno col pizzetto, non so che cos'era, l'ho beccato su un video del Fatto Quotidiano, il quale dice: questo è uno squalo capitalista, non un santone, ma vai a trovarti un lavoro invece di protestare, non rompere i coglioni. Cosa diresti a Farinetti se ora fosse presente in negozio? Se fosse presente in negozio, di smettere di dire puttanate facendo finta di essere un santone, semplicemente sei uno squalo schiavista, capitalista, dillo e basta. Numero uno assoluto, ragazzi, il numero uno assoluto sarà il grande protagonista, grandissimo protagonista di questo inverno, il presidente della Sampdoria nonché produttore cinematografico Massimo Ferrero, detto di Peretta. Guardate che siamo al top, siamo al top assoluto della comunicazione. Top, scusami, assoluto. Com'è detto questo signore? Il Viperetta. Prossimamente alla Zanzara. Allora, aspettiamo un attimo, molto calmi, perché altro che Gaucci. Qui Gaucci eravamo nell'ambito, sì, d'accordo, Gaucci, un po' di ignoranza, un po' di no. Qui siamo proprio, cioè, era quello ruspante, anche un po' truffaldino, no? Poi bancarotta, eccetera, eccetera. Qui siamo proprio al top totale, perché è uno che è nato proprio dal nulla, che è diventato produttore, eccetera. Poi c'è un sacco di difetti, per carità. Sentite come affronta la prima intervista a Sky. Offre alla D'Amico, alla mia amica Ilaria D'Amico, un posto come per una particina al cinema. Dice: D'Amico, noi la vogliamo, le offriamo. Senti, eccezionale. Parla innanzitutto in siciliano, perché la Sampdoria giocava a Palermo. Parla in siciliano con l'intervistatore. Spettacolo. Lui, Mihajlovic, ha detto: ci siamo raccontati delle barzellette quando ci siamo visti. E poi l'ha ringraziata per il mercato. Allora, è vera questa storia delle barzellette? Che barzellette erano? Sì, è vero, perché io ho fatto 3 film a Palermo e gli ho parlato un po' che una palermitano, se ne ho messa, 1-1, va bene, ci sta, buonasera a tutti, ciao Ilaria, sei la donna che fa il pallone, ma quando vuoi fare l'attrice ti faremo fare un grande film. Quando vuoi fare l'attrice ti faremo fare un grande film. Tra l'altro, D'Amico ha risposto: si fanno tanti errori della vita, io ne ho fatti tanti, credo che farò anche questo. Però adesso perché uno deve sputare? Quello gli ha offerto in fin dei conti un qualcosa, no? Signor Viperetta, ha offerto un posto alla D'Amico. Ma dai, Viperetta, che c'hai contro Viperetta? Ma che mondo è? Subito, il 1° di settembre, con il signor Viperetta, dai. Io so delle cose del signor Viperetta, ragazzi miei. Che poi non fate... Che è lo stesso che ha comprato la Livingston, il signor Viperetta, quella compagnia aerea. È finita molto male. Ma di cosa parliamo? Parliamo dell'eccellenza italiana, invece, ti prego. Pronto? Sì? E il conduttore? Sì. Siamo noi, siamo tornati. Ecco noi, Vladimir Luxuria. Buonasera, ciao. Buonasera. Come andiamo? Bene, grazie. Senti, ma vuoi chiedere scusa a Giorgia Meloni per quello che hai scritto? Per quale motivo dovrei chiedere scusa? Beh, qui addirittura la russa, io è una domanda, mica ho detto che devi chiedere scusa, addirittura la russa si propone come mediatore, dopo quello che hai scritto su Twitter, e dice: beh, io conosco Vladimir Luxuria, l'apprezzo anche, eccetera, però dovrebbe chiedere scusa a Giorgia Meloni perché ha messo in mezzo la vita privata di Giorgia Meloni, credo che il padre se ne sia andato quando lei era piccola, per questioni che riguardano le adozioni gay. Vuoi ripetere cosa hai scritto intanto per quelli che ci ascoltano? Allora, diciamo intanto perché ho scritto questo. Era uscita da poco una campagna con il logo di Fratelli d'Italia, dove dopo aver scippato, secondo me, l'inno d'Italia, farne un nome di un partito, hanno scippato anche la foto a Oliviero Toscani, che neanche sapeva che sarebbe stata utilizzata la sua foto. Cioè, perché hanno scippato, dici, il nome del partito l'hanno scippato all'inno italiano? Sì, dai, questa cosa di chiamarsi Fratelli è un po' come Forza Italia, non è neanche originale. Cioè, sono cose che uno dice, allo stadio del calcio, no? Sì. Forza Italia. Vabbè, quelli però lo dice quando canta l'inno, e questi poi lo usano per farci uno scippo, dici, uno scippo. Per me sì, è uno scippo, però quelli so affari loro, uno potrebbe dire. Loro. però hanno scippato questa foto di Olivero Toscano in cui si vedono due coppie, due gay e due lesbiche, che sembrano quattro tossici, è vero, sembrano quattro tossici. Con un bambino con lo sguardo perduto, che è con le braccia alzate, tipo come se fosse crocifisso, cioè proprio l'idea che viene fatta da questo manifesto è: attenzione, questi drogati, questi perversi, questi depravati dei gay e delle lesbiche mettono in pericolo i bambini. Ah, però quella la foto, quella la foto è dei Toscani, che c'entra fare dell'Italia, però? È lui che ha fatto la foto in questo modo, per una campagna pro-gay, peraltro. Allora, la foto messa in quel contesto con scritto no alle adozioni, è chiaro che il messaggio che viene veicolato è: attenzione, c'è il nuovo Erode, qualcuno che vuole fare la strage degli innocenti, qualcuno. Allora, io dico, tutti possono avere la loro opinione, per carità, e si può essere contrario alle adozioni gay e alla omogeneità. Meno male. Dopo, poi figurati. Però insultare, cioè far pensare che le coppie gay, le coppie lesbiche siano dei potenziali distruttori della vita dei bambini, io lo trovo offensivo. Io in quel momento ho immaginato, ci sono 100.000 bambini in Italia oggi, nonostante la mancanza di leggi. Sì, ma che c'entra la famiglia della Meloni, cara Vladimir? Allora, caro Parenzo, Te lo dico con affetto, che io condivido le tue battaglie, il padre della Meloni non c'entra, poverino. Io te lo dico con affetto. Non da amico. Io mi sono messa nei panni di tutte le famiglie, penso, perché lì entriamo nel personale. Tutte quelle coppie di madri che hanno visto quella campagna e che hanno pensato, guarda, vogliono farci per spassare come dei tossicodipendenti. Allora io non ho fatto nessuna... tu hai detto, spero che nessun bambino venga abbandonato da un padre a 12 anni come è successo a Giorgia Meloni. Questo è un colpo basso. Allora, intanto Giorgia Meloni questa cosa l'ha detta più volte alle interviste. Anzi, lei ha detto che dopo essere stata abbandonata, insieme alla sorella hanno dato fuoco alla casa e si sono dovute poi dopo trasferire un'altra casa. Non sto facendo gossip. Sono cose che lei ha detto. Che tra l'altro me l'hanno resa anche più umana e anche più simpatica. Io con Giorgia Meloni la trovo simpatica, ci ho parlato un sacco di volte, quindi non avrei nessuna ragione per fare un attacco personale. Solo chi non vuole capire, solo chi non vuole riflettere, non capisce. Il senso del mio messaggio era: basta pensare che essere eterosessuali è la condizione unica che per avere figli, perché ci sono tante famiglie italiane con i padri, con i genitori eterosessuali, dove non basta essere genitore eterosessuale per essere un buon genitore. Ad esempio, Giorgia Meloni è stata abbandonata quando aveva 12 anni, ma in questo caso io non è che sto capito, l'abbandono, se poi di abbandono si trattò, non mi ricordo bene, lei l'ha raccontato, eccetera. L'abbandono di un padre non è la stessa cosa, non può essere equiparato all'adozione. Io sono, come sai, sono favorevolissimo all'adozione da parte di coppie gay. Però non è che se un padre abbandona, tu puoi fare un esempio del genere per dire: ah, vedete, anche nelle coppie eterosessuali ci sono i padri che abbandonano, le madri che abbandonano, ci potrebbero essere le mele marce, diciamo, no? Allora non potete dire no per questo alle adozioni omosessuali, cioè non può essere un argomento, dai Vladimir, su. No, è un argomento perché io credo che tutti noi dobbiamo capire che l'orientamento sessuale di una persona non è una patente per essere un buon genitore. Ma questo d'accordo? Io sto rispondendo agli argomenti. Tu dici che il padre di Giorgia Meloni non è stato un buon genitore? No, perché... non è stato un buon genitore, e io sto accusando il padre, non Giorgia Meloni che è la vittima, alla quale va tutta la mia solidarietà, perché io conosco tante figli. Ma è un fatto privato che non ha nessuna rilevanza politica rispetto alla battaglia per l'adozione. Hai rimesso in circolo una cosa privata che è dolorosa evidentemente per la signora Meloni, per fare una battaglia, una legittima battaglia politica, o no? Io ho voluto usare l'esempio della Meloni, avrei potuto usare anche altri esempi, per dire che non è vero che la famiglia sacra, la famiglia intoccabile, quella composta da uomo e donna, e che gli altri in quanto gay non possono essere buoni genitori. Ho fatto un esempio di un genitore che non è stato un buon genitore, riferendomi al padre di Giorgio Meloni. Un attacco diretto alla campagna di Fratelli d'Italia, e anche personale, perché... Sa Cruciani, anche tutte queste cose di mettere le coppie gay e lesbiche come dei tossici sono attacchi personali alle vite delle persone. Allora io sono stanca, stanca di pensare che questi devono continuare a deriderci, offenderci, a scambiarci o per pedofili o per tossici, e noi non dobbiamo neanche rispondere. Basta, siate pronti, ogni volta che voi ci attaccate noi vi attaccheremo anche sul personale, perché siamo stufi. Alla guerra come alla guerra. Però attenzione Vladimir, attenzione, io penso che quelli che hanno messo online quella foto là, primo, non sapevano che era la foto di Olivero Toscani, secondo me le facce di quei gay, diciamo, di quei presunti gay, ovviamente, che erano degli, evidentemente degli attori lì, cioè non è che abbiano guardato molto quelle facce per dire ecco, queste sono delle facce torbe da tossici, allora mettiamo quella foto lì. Guarda, basta guardarla la foto, hanno uno sguardo aggressivo, minaccioso, sembrano dei cioè veramente guardatela e poi ditemi se sbaglio. Comunque, io. Comunque non bisogna chiedere scusa, non c'è nessuna scusa da chiedere. Non di fronte... nessuna scusa perché io non ho offeso, cioè io so, quando se dico che spero che nessun bambino venga abbandonato, non sto facendo un insulto a una vittima, semmai il bastardo è il padre, è al padre che io mi riferisco, al padre che voglio padre insultare. Bastardo, sì. Però i Fratelli d'Italia hanno chiesto scusa per aver fatto, per aver preso questa foto senza sapere di chi fosse, peraltro. Dopo l'annuncio di querela da parte di Toscani, certo. Dopo che Toscani ha detto io vi querelo, certo che l'hanno fatto. Ma sono fascisti, sono secondo pure codardi, te? Sono fascisti, secondo te? Ma no, guarda, io non uso questi termini fascista, ghetti, lager. No, che ne so, magari pensi qua, che ancora siano fascisti quelli che sono andati dentro Fratelli d'Italia, no? No, non c'è la Meloni, voglio... come la consideri, una fascista, una... No, Meloni la considero una persona che è distante da me da un punto di vista politico, ma non l'ho mai considerata una fascista. Tra l'altro, lei in tutti i talk show si è sempre... diciamo così, rapportata a me in maniera molto tra l'altro civile. Piace anche al mondo gay, ho saputo, la Meloni. Anzi, posso dire una cosa, secondo me la Meloni è anche una che per partito preso a volte deve dire certe cose, ma forse lei in fondo su certe questioni su che la pensa pure in maniera diversa. Questa però è la mia impressione, No, ma anche la mia, devo dire la verità. Non secondo, ho veramente nessun motivo. Secondo me negli anni, creando Fratelli d'Italia, si è gioco forza, è diventata più estremista su questi argomenti. Prima non era così, secondo me, prima di Fratelli d'Italia, ma comunque questo lasciamo perdere. Ha sempre difeso la famiglia. Però quello che ti chiedo è, non era un'icona gay, un po' considerata, sono tutti icone gay. Sono tutti icone gay. Qui l'unica icona gay è Cruciani, che ha avuto anche la medaglia eterofriendi a Gay Villa. Beh, sono uno di voi, ho gridato! Sono uno di voi, nonostante qualcuno del vostro mondo mi considera una specie di pazzo. Meno male. Una specie di pazzo. Meno e nonostante male. Avete querelato Taormina e lo avete fatto condannare. Benissimo. Cosa sbagliatissima. 10.000 euro di multa per discriminazione sul lavoro, mentre quello ha detto semplicemente che non vuole assumere. No, ma infatti è sbagliata la pena, perché il giudice avrebbe dovuto obbligare il nostro amico avvocato a assumere a tempo determinato in studio un avvocato dichiaratamente gay proprio. E com'è la questa scena? Com'è la scena che dell'avvocato gay? Però, che è stata una condanna per l'assistente. Per va bene, ciao Vladimir, a presto. Ciao. Nessuna scusa, ragazzi. Facciamo casino qua. First day of Zanzara. Oh, Roberto da Savona, avanti su una piccola telefonatina, 20 secondi giusto per dare, no? Giusto per farmi ricordare un po' cosa sono le telefonate che arrivano. Il signor Roberto da Savona. Buonasera. Vai Roberto, vai. Dunque, io le faccio perdere veramente 15 secondi, l'ascolto spesso, so che lei spesso è fuori dalle righe, ma probabilmente fa parte del suo personaggio. Non c'è nessun personaggio, sono fatto così. Roberto, avanti. No, del personaggio nel senso che lei è fatto così, voglio dire. Allora? E credo che sul tema del non me ne frega un cazzo di quelli che perdono un posto di niente, lavoro, non sono ipocrita, niente, nulla, zero. Zero, non totalmente. Me ne frega un cazzo. No, allora, non è che non me ne frega niente. Vuol dire, se uno deve dire mi dispiace, bene. Poi in realtà la nostra vita continua e ce ne sbattiamo i coglioni. No, ha capito? Ma è ognuno, la vita di ognuno di noi continua, non è che ci mettiamo a piangere ogni giorno per quelli che perdono il lavoro. Mi siete mancati. Ma chi è questo? Là, il senatore 5 Stelle, come si chiama? Giarrusso. Che non è Dino Giarrusso. Giarrusso. Tu sai chi è Dino Giarrusso? Signor Dino Giarrusso. È un giornalista che tra l'altro ha lavorato, giornalista e altre cose, che ha pure lavorato con il signor Viperetta. Anche è stato anche alle dipendenze del signor Viperetta. Beh, alle dipendenze adesso. Tu devi sapere che, vabbè, lasciamo perdere, che poi ne parleremo un'altra volta del signor Viperetta. No, so tutto. So signor tutto. Viperetta, presidente della Sandoria numero uno assoluto della comunicazione in questo momento. Ma c'è qualcosa di Viperetta quando ha fatto anche l'attore? Del mitico Ferrero? Adesso lo prenderemo, perché ha fatto l'attore in un sacco di film. Ultra, un film con Abbatantuono, eccetera. Però io vorrei affrontare una questione qui, al di là del Viperetta, la questione dei bronzi di Riace sollevata dal nostro vittorione nazionale, dal nostro Sgarbi. Allora, io propongo una cosa. Sapete che Sgarbi, giustamente, cosa ha proposto? Ha proposto di portare i bronzi di Riace per l'Expo a Milano per 6 mesi. Dato che l'incasso che fanno in Calabria è praticamente zero, cioè non prendono una mazza di quattrini, pur avendo i bronzi di Riace, i calabresi, le amministrazioni calabresi non riescono a farli fruttare, questi bronzi di Riace. musei chiusi, visite ridotte a lumicino, e poi uno deve andare a Reggio Calabria, che non è una cosa così semplice andare a Reggio Calabria, no? Allora, io propongo una cosa. Siccome tra l'altro dicono di no, no, gli amministratori calabresi dicono no, i bronzi di Viaggio devono rimanere qui, casomai i visitatori dell'Expo devono andare a Milano. E no, amico mio, andare da Milano in Calabria è un'odissea. Andare a visitare i bronzi di Viaggio con gli orari del cavolo che fate, so, è un'altra odissea ancora. E allora io propongo una cosa. I beni, i bronzi di Viaggio, perché devono essere calabresi? Cioè, tu spiegami, perché sono della devono essere amministrati dalla Regione Calabria? È un patrimonio dello Stato. Dei beni, sono dei beni culturali italiani, vanno presi e sequestrati, certo, alla Calabria, sequestrati con i carabinieri, cioè i carabinieri, la polizia, quello che è, la guardia di finanza, la guardia forestale, che ce ne sono tante in Calabria, devono andare a Reggio, prendere i bronzi di Riace, sequestrare, cioè proprio portarli via, e poi con un grande treno si organizza, un enorme treno che porta questi bronzi di Riace fino a Milano, e questi bronzi di Riace vengono esposti in ogni città, un treno meraviglioso. Sai come faceva il Duce quando andava in giro col treno? Beh, adesso no? Il Duce, io avrei fatto un altro paragone. Ma Duce porta, così. Insomma, sì. Però, sì. Però sì, non meritano di rimanere a Reggio Calabria. Non meritano di rimanere in Calabria. No. Vanno sequestrati dallo Stato, tolti ai calabresi, tolti alla Calabria. Che e qualcuno. Via. Che altri amici in più da oggi. Che qualcuno alla Calabria, che qualcuno, amico mio, sì, soprannomina ormai da tempo la Calabria Saudita. Ti ricordi, no? Questa cosa? Sì, come? Qualcuno, non io, eh. Reggio non Calafrica, io. Qualcuno. Tutto, sì, qualcuno. Sì. Vanno tolti alla Calabria, che non li sa gestire. Eppure è bellissima tolti, la Calabria. Bellissima, stupenda. Sequestrati alla Calabria e portati all'Expo. Portati all'Expo. Vittorione. Ci sentiremo nei prossimi giorni. TG3, cioè che è? TG3, ci sono i titoli, via. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Renzi presenta l'agenda dei 1000 giorni, mi giudicherete nel 2017, passaggio parlamentare a ottobre, basta veti e rendite di posizione. Falso problema per il Premier, l'articolo 18 riguarda poche migliaia di persone. La strada è il contratto a tutele crescenti. Sul lavoro la Germania è un modello. Incontro Draghi-Hollande, crescita nel rispetto dei patti europei. Berlino frena sulla telefonata della Merkel, nessuna pressione sulla Banca Centrale Europea. Ricoverato in ospedale a Nuova Delhi il marò Massimiliano Latorre per un'ischemia. Ora le sue condizioni sono migliorate ed è cosciente. Il ministro Pinotti in India. I filorussi dell'Ucraina conquistano posizioni e chiedono autonomia, e il neo presidente del Consiglio europeo Tusk evoca lo spettro della guerra totale. In carcere in Spagna i genitori inglesi fuggiti dall'ospedale con il loro bimbo malato di cancro, ma il premier britannico Cameron si schiera con la coppia. Ribellione e diversità nel Giovane Favoloso, il film su Leopardi di Mario Martone, terza pellicola italiana in concorso a Venezia, protagonista Elio Germano. Bisogna veramente attivarsi adesso che siamo tornati Parenzo, per fare qualche ricorso, cioè questi bronzi di Riace maledetti, che giustamente qualcuno ha dipinto qualche volta, no? E ci sono state proteste, cioè, vanno sequestrati d'urgenza con un provvedimento. Benedetti i bronzi, maledetti quelli che l'hanno gestiti così male. I calabresi, fino a oggi, i calabresi, no, noi calabresi, i calabresi, non i calabresi. Loro, chi ha avuto la responsabilità di gestirli? I politici museo, calabresi, scusa, quello che è, i politici tutti, calabresi, dai. Ma la Calabria andrebbe commissariata per sempre, cioè fino a quando l'ordine non torna, cioè commissariata eternamente, no? Tornati da un'ora e mezza altri amici. Le elezioni in Calabria non servono a nulla, diciamo la verità, cioè le elezioni, beh, no, servono le elezioni? Non servono. Ma certo, la maggior servono parte delle città calabresi va commissariata fino a quando non regna di nuovo l'ordine, commissariata totalmente, la regione commissariata se non addirittura abolita, i bronzi di Riace presi, carabinieri, polizia, non è che mi fidi molto dello Stato, io comunque meglio della Calabria, presi e portati a Milano, dove ci saranno, spero, qualche centinaia di migliaia di persone che verranno durante l'Expo a guardarli. Milioni, pagheranno, speriamo. Pagheranno, chiaro? Non stare lì a marcire in Calabria, dai, su. Ma di che stiamo parlando, dai? Fammi sentire Roberto dalla provincia di Napoli, ma quello di prima è sparito, quello che voleva parlare di cose, richiamatemelo, dai. Quello che voleva parlare del lavoro, di quello di Italy che protesta. Roberto, provincia di Napoli, dai. Buonasera, scusi la balbuzia, sono... Beh, però lei, scusi, è balbuziente, chiama la radio, scusi. Beh, no, adesso io vorrei capire, perché vorrei approfittare del fatto che lei dà la possibilità a tutti di poter esprimere. È vero, no, è vero. Prenda pure i suoi tempi, con calma. Con calma no. Senta, sì. Cruciani, sì. Volevo capire meglio il suo pensiero in merito ai Marò in India, perché non ho capito in bene. India, sì. Non ho capito bene se lei era favorevole o meno al fatto che stessero ancora in India. Ma io non so né che sono favorevole o contrario, a me non me ne frega niente se stanno in India o non stanno in India. Credo che abbiamo commesso degli errori all'inizio, perché quando sono tornati in Italia dovevamo tenerli in Italia. Penso, punto, quando sono tornati a un certo punto che sono stati commessi degli errori pazzeschi da parte del governo Monti, che li ha fatti tornare in India, li dovevamo farli rimanere in Italia. Cioè, se uno Stato pensa di voler difendere i suoi connazionali, li va a prendere pure con i servizi segreti, con qualcuno, cioè stanno in ambasciata, prendiamoli e riportiamoli in Italia con gli elicotteri. Che fanno? Ci sparano gli indiani? Non credo che ci spareranno. Riportiamoli in Italia con la forza, non col diritto, ci vogliono anni, eccetera. Poi appunto uno si ammala e quello che è. Bisogna riportare, se uno li vuole riportare in Italia perché pensa che sia, io non so se sia giusto o sbagliato, non lo posso sapere, c'è una questione giuridica molto complessa. Però se uno pensa, se lo Stato italiano pensa che sia giusto, se li deve andare a prendere con tutte le forze disponibili, con tutti i mezzi disponibili, anche con un'azione militare. Cruciani, questo è il punto. Continua ad essere allora il mio mito, perché io sono perfettamente d'accordo. Dopodiché andiamo a prendere con un'operazione militare, se pensiamo che sia un'ingiustizia, perché passare per il diritto con gli indiani è un campo a cavallo. Dopodiché c'è un altro aspetto. Questi signori non è che erano lì, sono andati lì in vacanza a premio. Hanno sparato a due signori che sono morti. Ma questo è da provare. Ma non è da provare, cioè la morte di questi non è da provare. La morte di questi non è da provare. La morte di quelli non è da. No, no, aspetti. La morte degli indiani non è che è da provare, sì, ma che siano stati Girone e la Torre è ancora da provare. Le prove ancora non ci sono. Noi stiamo parlando di due militari. Noi spesso che cosa vogliamo? Noi spesso cosa vogliamo? Pretendiamo che gli americani non processino le persone che hanno commesso. Non processino loro, ma vogliamo processarle noi, le persone che hanno commesso dei reati nel nostro paese, giusto? Ma sappiamo che cosa è successo. Non possiamo pretendere la stessa cosa, no? Dobbiamo applicare la stessa. Sì, ma uno Stato che deve fare? Dovrà difendere i propri cittadini, no? Il punto è proprio questo. Cioè, comunque, ragazzi, la figlia di, sarà pure una ragazzina, ma la figlia di La Torre, che dice l'Italia fa schifo. Non si può condannare la figlia di La Torre. Non sto condannando, ma la potrò giudicare oppure devo dire alla berlina. Insomma, ha scritto magari una sciocchezza, ha usato toni sbagliati. Ha 18 anni, ha il padre che è malato e che adesso è in ospedale. E che deve fare, poverina? Ha espresso tutta la sua paura, la sua angoscia. No, ma non ha espresso solo quella. Ha detto che l'Italia fa schifo, un paese di merda, che importiamo gli immigrati e non riusciamo a riportare a casa suo padre. Ma ha detto delle cose in più, magari è stato un momento di... Ti credo. Ho capito, ti c'ha credo. Il padre che è lì, è in India, lontano. Siccome scrive delle cose su Facebook, noi giudichiamo quello che viene scritto. Si potrà o non si potrà, oppure ci mancherebbe è un altro, reato ma di lesa maestà. Non no. È nessun reato, ma non me la sento di condannarla. Non sto per condannando quello che ha nessuno, scritto. Sto dicendo che dire che l'Italia è un paese di merda, sì. Riccardo, provincia di Cosenza. Che vuol dire? L'Italia è un paese di merda, fa schifo perché fa venire gli immigrati e non fa tornare mio padre. Accoglie gli immigrati e non fa tornare mio padre. Dai, su, Riccardo, avanti. Pronto? Sì. Innanzitutto buonasera. Buonasera. Allora, le vorrei dire chiaramente che le adozioni gay non hanno futuro, non avranno mai futuro, perché non è possibile che un bambino ha un padre, una madre, una madre. Sì. Questo è un valore che va contro i principi sani, ricordatelo. I principi, sani, ho capito. Sì, principi. Questi non sono principi sani, va contro la religione, va contro tante cose, questa non è libertà, è violazione. Violazione di che? De cosa? Violazione? Come di cosa? Ma violazione di che? Del diritto naturale, del diritto... dei diritti della madre. Sì, ho capito, ma le cose cambiano nella vita, non sono sempre le stesse. Ma che le cose cambiano? Ma esistono le lesbiche, i froci, lei lo sa, allora, che esistono le lesbiche e froci? Lei lo sa che esistono due lesbiche, due froci, che magari si vogliono anche sì, bene oltre a fare sesso. Normalissima, allora, queste due lesbiche, queste due froci, che magari vogliono avere un bambino da crescere con amore, con affetto, perché non lo possono fare, secondo lei? Allora, gli posso rispondere, mi lascio rispondere. Sì, risponda. Allora, io rispetto le coppie gay e le coppie lesbiche, cioè non però lei dice, l'adozione per i bambini è un'altra ognuno cosa. Ognuno della sua vita fa quello che vuole, però che in mezzo a due gay o due lesbiche ci dovrebbe essere un bambino che deve crescere in quella famiglia, in quello stato, non sono d'accordo. Non è d'accordo. Vabbè, grazie Riccardo. Allora, un notizio mi scrive: sono stato con la famiglia a Reggio Calabria al museo per ammirare i bronzi. Vorrei segnalare che non accettano bancomat e carta di credito e non hanno effettuato il controllo dei biglietti. Cari saluti, Roberto. Amico mio, lo sappiamo meglio di te quello che succede. Grazie di questa cosa che hai scritto. No, e non funziona niente. Niente. Vanno sequestrati alla Calabria, portati via con un treno, fatti ammirare a tutta Italia pagando. Poi magari qualche soldino lo diamo pure alla Calabria, così, tipo mancia. C'è l'invasione dei froci. Ormai è tutto degradato. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Non ci importa se il tuo sangue è rosso blu. Allora ragazzi, da domani inizia qui alla Zanzara una grande campagna sostenuta da me e non da Parenzo in appoggio all'avvocato professore Carlo Taormina. Sì, allora, no, la non l'appoggio. No, tu non l'appoggi. Prendi le distanze. No, prendi le distanze, ma non solo, la osteggi addirittura. Però la mia combatterò campagna ogni giorno, certo. La mia campagna personale a favore dell'avvocato professore Carlo Taormina è il questa. Tuo Mein Kampf è questo. No, ma non è il mio Mein Kampf. Io non condivido le cose che dice Taormina, però essere condannati a una multa di 10.000 euro perché un giudice di Bergamo, un giudice del lavoro, dice che la frase pronunciata qui alla Zanzara da Taormina, quella sull'assunzione che faremo ascoltare nei prossimi giorni, eccetera eccetera, quella sull'assunzione nel suo studio di un gay, cioè non c'è un atto, non c'è una mossa, non c'è una delibera, una decisione di Taormina che va contro un omosessuale, c'è una frase detta alla Zanzara. Sulla base di questo uno viene condannato per discriminazione, capito? Per discriminazione. Beh, se c'è una legge che prevede primo caso la in Italia, ma non c'è una legge. Primo di una lunga serie sarà, il primo di una lunga serie. Allora, io dico una cosa, bisogna dare supporto massimo all'avvocato professore Carlo Taormina. Attraverso... Non c'è bisogno del supporto. No, no, sì, supporto, assolutamente. Ma come? Uno non può dire una frase che viene portata in tribunale da un'associazione che si chiama Avvocatura per gli omosessuali, eccetera, eccetera, e condannato a 10.000 euro di multa perché hai detto una frase. Ma dai, su, ma in che paese siamo? Poi io ritorno su questa cosa di Marò. Adesso non prendetemi per pazzo, perché le stesse cose che dico io le dice Paolo Mieli. Più avanti ve lo farò ascoltare. Paolo Mieli, il signor Mieli, ex direttore del Corriere della Sera, ha detto le stesse cose che dico io sulla questione. Beh, non così. No, no, no, ma no. Sulla questione della, no, dell'atteggiamento dell'Italia, del fatto che consideriamo l'India un paese del terzo mondo. Io dico una cosa: se uno considera che quelli là stanno reclusi in India ingiustamente, se li va a prendere. Noi non abbiamo le palle per andarceli a prendere. Beh no, ma ci sono anche dei trattati internazionali con loro, accordi commerciali, cioè fare un'operazione di questo tipo vorrebbe dire mettersi contro l'India anche dal punto di vista commerciale. Allora, da questo punto di vista ha ragione il fatto che non abbiamo le palle per andarceli a prendere, ha ragione la figlia di La Torre. Che però quando fa il paragone con i clandestini, siccome facciamo entrare i clandestini, no? Vabbè, questo. E però non riusciamo a portare mio padre. Insomma, dai, non c'entra cazzo sta storia, dai. I clandestini non c'entrano niente, su. Allora, eravamo con Roberto da Savona. Oh, ma non vogliamo dire nulla sul viaggio fatto dal tuo amico Razzi e dal signor Salvini. Che vogliamo dire? Domani avremo esclusive, informazioni e tutto. Ci mancherebbe. Del signor Salvini e il signor Razzi che, come in un film di Totò, sono andati a baciare la pila al leader supremo Kim Jong-un in Corea del Nord. Non vogliamo dire nulla. Non sento parole dagli amici di Radio Padania su questo viaggio in cui il leader della Lega Nord è passato dal dio Po a baciare le mani a un dittatore sanguinario comunista. Dove sono i leghisti? Dove sono? Dove sono finiti? Sono affogati nel Po? Dove sono? Dove sono andati questi leghisti? Beh, devo dire la verità. E tu devi stare zitto. No, perché no. Tu hai passato le vacanze, anziché come in genere si fa, rilassandosi, leggendo dei libri, al sole, con la famiglia, ancorché con la fidanzata, con l'amante se vuoi. Cosa hai fatto anziché fare tutto questo? Anche con il solito caravan di donne che ti porti dietro, no? Non caravan, hai fatto questo. Caravan di donne. Caravan. Come il califfo. Caravan di donne. Anziché fare questo, cosa hai fatto? Perversione delle perversioni. Malato di un malato. Pazzo di un pazzo. Hai passato l'estate con Razzi. ma una cosa da malati mentali. Uno dice, ma cosa fa Cruciani? Ogni tanto guardavo su Twitter, dice, è sparito per un mese, dove cazzo è andato? Sarà con le sue donne in giro? No, magari fosse avvenuto sì. questo. Magari con Razzieri. Sei un malato di mente ormai. Sei un malato di mente. Ho passato delle splendide serate. Pintando delle foto con quel personaggio. Ho passato lì. Splendide serate. Mamma un magnifico mia. Pranzo al mare. Con persone che venivano ad omaggiarlo continuamente, mamma. Perché è una specie di papa. Non c'era una persona che lo criticava. In giro per Pescara, a braccetto, io e il senatore Razzi, il mio amico senatore Razzi, a Pescara con le persone che lo omaggiavano. Ti giuro, foto di continuo, senatore, ci faccio una foto. Cioè, una specie di mito assoluto, ti assicuro, un mito assoluto. E voglio sottolineare, dotato si può dire, di una meravigliosa consorte. Una meravigliosa consorte che mi ha raccontato la storia del loro matrimonio, come si sono conosciuti, una storia da lacrime. Ferrero, fai un film, intervieni. Non vuole fare il film di Banfi, cioè lo farebbe, però un film sulla sua vita bisogna fare, un film sulla vita di Razzi, amici ci manca. Ferrero, intervieni. Amico mio, lì te lo dico da amico, gatta cicova lì. Allora, ho dato a mio cognato la maglietta di Razzi, quella con la foto di Razzi, no? Sì. Mio cognato Massimo, la maglietta di Razzi, quella che abbiamo in tuo pochi cognato. Per fortuna, no? Mio cognato, perché non posso avere un cognato. Al marito, ma che vita disperata. C'hai una vita, guarda, degradata. Ma che vita degradata. Ma dai, ma uno che ha un mese di vacanze la passa con Razzi è un degradato mentale. Allora, dai. Ho dato la mia maglietta, una bella figura. C'ha ragione la nonnina comunista. Scusa, che fine ha fatto? È morta, no? No, ma come si è? Non si è sentita più. Quella se la chiama. Allora, c'è la foto di Razzi con scritto, te lo dico da amico, fatti i cazzi tuoi, no? Eccetera. L'ho data a mio cognato Massimo a Pescara. Tu non hai idea le richieste che ci sono per questa maglietta, amico mio. Poi magari gente che dice che è un pezzo di merda, però vogliono la foto di Razzi qua. La forza della comunicazione, amici miei. Vabbè, eravamo con Roberto da Savona, sulla storia di quelli che vanno a protestare contro Farinetti perché chiudono o comunque mandano via 60 persone, non so quante, a Italy, a Firenze. Allora Roberto, che mi volevi dire? Non ho capito. Dunque, io volevo dire una cosa, al di là del tema di Farinetti, io credo che ci vorrebbe... Premesso che io concordo spesso con le sue posizioni, ma ci vorrebbe un maggiore equilibrio quando si dice a me non me ne fotte un cazzo. Maggiore equilibrio? Lei chiede a me maggiore equilibrio? Ma che faccio? Che so, Vespa? Che so, Bruno Vespa? No, beh, attenzione, non gli ho chiesto l'ipocrisia, tutto rispetto, gli ho chiesto una cosa diversa. Ma mica ipocrita Vespa. Vabbè, questo io lo ritengo un ipocrita, però ci mancherebbe una valutazione. Guardi, Roberto, io dico quello che penso. In fin dei conti, anche lei quando va a casa, non è che no, si mette a piangere per quelli che perdono il lavoro. No, non si mette a piangere, prosegue la sua vita tranquillamente. Io dico questo, il primo sentimento che ci viene è quello di, vabbè, sì, hanno perso il lavoro, chi se ne frega, tanto non l'ho perso io. Questo è il punto fondamentale. Non è vero. Non c'è la solidarietà. Ma sì, ma è un'ipocrisia questa cosa qua. Questo nelle società capitalistiche, sai che in una società mercato, come la nostra può capitare lavoro, anche a te, a un tuo amico, a una persona che conosci. Eh no, vabbè, un corno. E vabbè. E come vabbè? Non c'è niente. Sì, bisogna capire perché non c'è lavoro. Quello è un altro discorso. Allora, lei mi consenta di dire una cosa. È vero che la vita si supera tutto, si supera anche la morte, per cui si supera tutto. Vabbè, allora? Però io credo che di fronte a un tema di aumento di disoccupazione nel nostro paese, di difficoltà economiche in questo paese, un'affermazione di questo tipo, secondo me, è leggermente io ho detto un'altra cosa, Roberto. Ho detto che quel signore lì che dice che Farinetti è uno squalo capitalista. Ma no, quello lì è un coglione. Ah, ecco bene, meno male. Meno quello male. È un coglione, perché Farinetti sia con Media World quando era. Poi dopodiché non è che è immune dagli errori. Crea impresa, lavoro. Dopodiché si fanno dei contratti interinali, come è normale che sia, perché non è che uno in Italia non si può assumere purtroppo l'onere di un contratto a tempo indeterminato. Dopo un po' di mesi, 120 euro, non restano 60, ce ne bastano 60 a casa. Vatta a trovare un altro lavoro. Fabio da Pisa. Fabio. Sì, buonasera. Dimmi. Buonasera. Senta, io volevo dire due cose sul fatto della figlia di La Torre, che ha perfettamente ragione. Cioè l'Italia fa schifo, è un paese di merda e fa schifo. Sì, su questa cosa qui sì, non in totale che è un paese di merda e fa schifo, ma sul principio. Beh, lei l'ha detto quasi in totale. No, io, lei l'ha detto relativo al fatto che il padre è là e noi accogliamo gli immigrati. Che non c'entra nulla, che non c'entra una mazza, che non c'entra una mazza. Lo sa quanto sono contrario? Lo sa quanto sono contrario io all'immigrazione clandestina? Lo sa quanto sono contrario? Ma non c'entra nulla con i Marò. Niente, non c'entra niente. Salviamo gli scafisti e ci abbiamo due militari da 2 anni e mezzo in India, grazie al governo Monti. Poi un'altra cosa, ci volevo spostare un po' il tiro sulla politica, perché il signor Renzi, che ha preso il 40% giustamente a elezioni libere, nessuno ha obbligato gli italiani a votarlo, ma 5 cose in 30 giorni, 5 cose in 100 giorni, 5 cose in 1000 giorni, ma questo ci piglia in giro. Cioè, critica chi lo critica per l'annuncite e fa altri annunci, e fa altri annunci. Poi dice verificheremo nel 2017, ma poi credo. Bisognerebbe andare a vedere se è vero il fatto non trascurabile che noi abbiamo avuto un complotto a livello internazionale per far fuori il governo Berlusconi. Vabbè, quello liberamente eletto. Ma quello non c'entra una mazza. Liberamente eletto, come è stato liberamente eletto. Non c'entra niente con le promesse. Questo di non c'entra, Renzi, con le promesse di Renzi non c'entra nulla. Certo, non c'entra niente, Fabio. Di metterci con il nostro presidente della Repubblica. Ma che ce frega a noi del complotto? Ma che ce frega del 2011, del complotto del 2011, dai. È una cosa per divertirsi, dai, per far parlare noi, per far scrivere i giornali, non ce ne frega una mazza, dai. Allora ci stiamo divertendo molto. Ma quale complotto? Ma quando ci stiamo divertendo molto? Vabbè, quello lo dicevo ai giornalisti. Io non lo so se è un complotto o meno. Ho detto una cosa riportata dalla stampa, non inventata da nessuno. Ma è riportata dalla stampa? Non è stata inventata da nessuno. Ma no. Ah no, non è... No, è che l'ha inventata il giornale Libero. Ma non sto dicendo che è inventata, sto dicendo che parlare di complotto, a parte che ormai non ce ne frega più niente di quello che è successo nel 2011, parlare di complotto va bene, cioè qualcuno pensa che ci sia stato un complotto internazionale per far fuori Berlusconi, altri pensano che in realtà ci sono state semplicemente delle pressioni, eccetera, eccetera. Guardi, questi discorsi mi annoiano profondamente. Facciamo in tempo ad andare via, caro David, e a tornare, che già l'amico Toscani, su cui non la penso, su cui non è che la penso sempre come lui, però fratello assoluto, ce ne combina una delle sue. Che è successo, Oliviero? Cosa è successo? Ma che t'hanno fatto? T'hanno rubato una foto? Sono scippato. T'hanno scippato? Altro che extracomunitari, tu dici, no? Altro che scippato. Altro che rom. Scippano, vedi? Rom. Chi sono i veri scippatori, allora? Sono questi qui. Poveretti, questi sono veramente ignoranti. Fratelli d'Italia, dici, ignoravano e hanno ignorato. Brothers of Italy. Fratelli d'Italia hanno ignorato che non si può usare le foto così, insomma, tutti lo sanno, anche gli altri, insomma, anche quelli che ragliano, lo sanno. Però scusami, mi domando il loro ufficio comunicazione, che gente ha, insomma, deve organizzarsi. Però pare che sia una cosa locale, cioè che non fossero proprio la direzione. C'è il logo del loro partito, quindi se loro danno una roba a locali, il logo, da usare il logo del partito, allora sono anche organizzati male, sono gestiti male. La Meloni deve organizzarsi, no, deve organizzarsi. Poi ho visto le sue ultime dichiarazioni dicendo che in fondo non me l'hanno chiesto, io non sono contento economicamente. Ma che discorso è? Cioè dice che c'è, in euro, per questo Ma tu pensi un po', il problema è che hanno travisato completamente il vero significato della foto, e tutti se ne sono accorti, le persone intelligenti tutte si sono accorte che quella era una fotografia positiva per l'adozione. Qualcuno dice che invece hai fatto la fotografia dei quattro, che le facce erano dei quattro tossi di gente un po' sbandata. Ma figurati, ma chi è che voglia? Il bambino quasi conteso, qualcuno ha scritto, guarda, no? Usato. Ma va, il bambino è felicissimo fra questi quattro genitori, che non si sa bene chi sia papà e la mamma, va benissimo. E guardate la fotografia a forma di cuore, proprio una foto d'amore, no? L'amore, anzi, sono persino in quattro, quindi loro possono essere anche quattro i genitori. Cioè va bene anche una famiglia con quattro genitori, secondo me. Ma appunto, questo punto qui, no, trovo che non è male, come io ho detto. Anche un uomo è un animale, dici tu? No, un uomo è un animale, no, perché non è un essere umano. E che ne so io? Forse tu, va bene, per te va bene. Ma no, per me no, per me no. No, comunque ragazzi, mi fa piacere che siate tornati, che non vi hanno licenziati. Come stai? Non vi abbiano licenziati, tutti avevamo paura che vi licenziassero, c'era qualcuno che avrebbe goduto, però io no. Molti avrebbero tornati. Molti avrebbero goduto. Gli stessi che ascoltano, magari, no? Gli stessi che ascoltano, poi magari godono se uno viene cacciato. Sì, vabbè, no, cattivissimo, perché è molto cattivo. Allora, hanno utilizzato sta foto e io trovo che mi hanno dato fastidio proprio a livello etico, perché travisare la visione non è proprio quello che... Ma cosa fai? Li porti in tribunale adesso? Che fai? Sì, l'hai ma detto. No, sarà fantastico. Mi cioè? Come fai? Un gatto, come un gatto col topolino. Poi è chiaro che ci sarà una denuncia con grandi avvocati di diritto d'autore, non solamente, ma poi voi non ci avete pensato, ma ci sono i quattro modelli francesi che sono incazzatissimi. Ah, pure quelli sono incazzati. Scusate. Ma anche il bambino è incazzato? No, bambino. Adesso è grande abbastanza, ci avrà i genitori. Quanti anni ha quella foto? Quanti anni ha? Ha quasi 4 anni. Vabbè, no. Il era tutto un servizio redazionale per il giornale El sulle possibili famiglie del momento, no? Sì. Sulle famiglie reali del momento, c'era la famiglia tradizionale, tipo un lino bianco col nonno, la nonna, figli e tutti a posto. Poi c'era la famiglia divorziata, dove il padre si rispose a altri figli, quindi c'era un'altra moglie che ha avuto altro marito, quindi la famiglia allargata, diciamo così. Poi c'era la famiglia, una foto di famiglia di immigrati che arrivano in un paese magari con dei figli e poi si risposano, o quelli gli italiani che sposano uno straniero che arriva, no? Ecco, poi c'era la famiglia monoparentale che era una... Ma però donna... io voglio capire una cosa, scusa, tu dici che sono incazzati pure i modelli a questo punto? Allora vedrete che casino, questi qua sono, dico, non è che puoi mettere il marchio di un partito sulla faccia, su una foto che ha significato opposto, dici il marchio del partito sulla tua faccia, capito? Ma io divento una belva, è chiaro, divento appunto, una belva. Questi qua sono delle belve, per di più, capisci, l'Italia, un partito fascista, non so io. Beh, fascista, non quale? Fascista. Ah, sono fascisti secondo te, Fratelli d'Italia, dici? Abbastanza, insomma, sono fascisti. Sì, insomma, sono residuato sempre di quell'idea. Sempre di quell'idea, dici. Sempre di quell'idea. Anche la Meloni ti sembra un po' fascista. Un po' che, no, ma poverina è un po' obbligata a esserlo, devo dire. Mi sta sempre l'impressione che è una un po' sfigata, perché deve fare prendere qualche posizione che forse lei non... Ah, ho capito, un po' una sfigatella, tu dici, perché... Poi anche bruttinina così, no? Allora, è brutta, secondo te? No, ma è no, bruttinina nel senso, lei pensa di esserlo, non è che sia brutta, come tutti quelli che pensa di esserlo, insomma, vorrebbe fare degli sforzi, non la vedi? Ti tinge qua di là. Ah, tu dici, alcuni dici che si ritocca le foto quando fai i manifesti. Sì, esatto, ma è giusto, c'è questa. Ma tu faresti delle foto a Giorgia Meloni, la useresti come testimonial di qualcosa, oppure è proprio una cosa che non... Testimonial di cosa? Che ne so. No, magari così, una foto, oppure proprio non è... Vabbè, d'accordo, adesso... No, io non uso mai testimonial. Posso usare voi due per un manicomio nel caso. Beh, sì, quello è buono però. Un manicomio, no, neanche un manicomio. Per atti osceni, insomma, utilizzaci come testimonial per una cosa sulle famiglie gay, una cosa fantastica. Per atti osceni in radio, non male. Quindi vi faccio una foto per la radio. Benissimo. Senti un attimo, caro Oliviero, bisogna qui fare una battaglia su Padova. Che è successo? Ah, no, io sono contento, ma ho telefonato perché io non voglio tanto parlare di questa roba, perché ci sarà un processo. Però vi voglio dire che il ricavato di questo risultato, la sentenza, di questo processo. Processo, aspetta, spieghiamo. Processo che ti voglio favore, il verrà devoluto al partito radicale che è stato il primo a sostenere l'adozione degli omosessuali dei bambini. Ma quindi loro dovranno pagare la campagna dal partito radicale, che sarà una campagna esattamente l'opposto di quello che ha fatto. Ma già hanno troppi soldi radicali dallo Stato, basta. No, la darò a loro, poi le terremo una parte e le macena noi e discuteremo della cosa. Però scusami, al di là di questo, dici i soldi erano dati per una campagna, i soldi dalla causa nei confronti di Fratelli d'Italia. Mi piace che quel partito lì ci sia una trasfusione fra un partito e l'altro, soprattutto di quel genere lì. Vabbè, ho capito, ma che succede a Padova? Che vuoi fare adesso con Bitonci? Hai visto che cosa vuole come fare? Si chiama Bitonci. Bitonci adesso vuole mandare i mendicanti. Sì, vuole punirli, allora, e prendere i soldi anche. Prendere volevo i soldi invitare, fare una giornata andare a fare i mendicanti, bellissimo, dei volontari, andiamo tutti a mendicare a Padova. Io vengo con te, Olivier. Dai, andiamo, facciamo. No, io no, perché mi avete rotto i coglioni su questa storia contro Bidocchi. Io vengo a Padova, no, siamo a mendicare, vediamo quanto ti danno. Mi sa che tu sei quello che becca più di tutti. A cattone. Però andiamo, scusa, a mendicare a Padova, dai. Cioè, allo, tu vuoi fare un una cosa che è molto raro fare, insomma. Tu vuoi fare un mendicanti day. Sì, da mendicanti day, è una allora, cosa fissiamo che... la data, ottobre, i primi di ottobre. Quando è Sant'Antonio? Sant'Antonio. No, è 13 di giugno il Sant'Antonio. No, troppo lontano. Poverello, San Francesco. Facciamo un gemellaggio San Francesco, Sant'Antonio. Quant'è? Ottobre, no? È presto, 4 ottobre. Quant'è? Chi è il protettore dei mendicanti? Non lo so, adesso non è che siamo, rischia questo tutto qua. Non lo so. Cioè, rischia tutto. Protettore mendicanti. Vai Google Search. Protettore forse mendica. Sant'Alessio di Roma, patrono dei mendicanti. Vabbè, che cosa vuoi fare a Padova? Una specie di mendicanti dei. Ci mettiamo in piazza, ci mettiamo là tutti Sant'Alessio. A mendicare. Sant'Alessio, vabbè, allora. Quando è Alessio? Che giorno è? Sant'Alessio. Caspita, il 17 luglio a Sant'Alessio. Anche là, vabbè, ragazzi. Adesso vabbè, andiamo una domenica a Padova a mendicare. Mettiamo da mendicanti. Ci mettiamo da mendicanti e ci mettiamo a mendicare. E tu vediamo. Come fai, con la mano o col cappello? Come fai? Tu poi no, tu io puoi non anche mendico. Cantare, ballare. No, io vengo lì e osservo questa scena pietosa di Oliviero Toscani, David Parenzo e qualche altro che vogliono. Tanti. No, Crepè ha detto che viene anche lui. Crepè viene tutto il gruppo che viene. Andiamo tutti a mendicare. Ma perché, scusa, non ho capito, ma è giusto avere i mendicanti per strada o è meglio toglierli dalle scale? O è meglio togli... Ma ci sono, ma senti, ma andiamo a ballare, tu per esempio potresti ballare un po', tu potresti mangiare un po' di fuoco. Ma tu dici che ci vogliono i mendicanti per strada, ci sono e ci ma devono... Ma non mendicanti, ma quelli che vanno in giro a chiedere l'elemosina. No, a farsi pagare per strada, conosci Piazza Grande di Lucio no, Dalla, d'accordo, no? Ma tu dici... Conosci Piazza Grande. Tu dici che quelli che quelli che chiedono l'elemosina è giusto che la chiedano? No, mi danno fastidio, poretti, ho grande pietà per loro, però per cosa li mandi? Via coi cani, come fa questo qua, scusa. Ma cioè, allora? Vuole sequestrare l'incasso anche? No, ma è tremendo, vuole dare 5.000 euro di multa. Ma è inumano, capi? Ma se sei uno già povero, così è la multa di 5.000. L'ho detto che ero subumano. Ho detto dall'inizio che ero subumano. Non è umana questa cosa. No, non è subumana. Vabbè, ma ragazzi, ma non è che vuole fare nient'altro, vuole togliere i mendicanti dalle strade. I poveri ci sono, ma tutti tu e i bitonci. Non togli picchiando i mendicanti, esatto. Scusa, è tutto qua. È chiaro che vogliamo tutti togliere i mendicanti dalle piazze, ma non con quello con il suo metodo, vuol dire che è incapace e sequestrare di fare i denari, politica. Sequestrare i denari? Sì, e poi cosa va? Casino, cosa fa? Ma cos'è che ma poi è anche come stupida casino, come scusa, cosa? Cosa vuoi sequestrare? Se io sono se c'è un povero per strada, io gli do un euro, ho voluto dargli un euro, mica mi ha rubato, glielo ho dato anche, io l'euro. È anche contro la legge, è un furto. Ma è completo, dice, ma è un furto. Io gli ho donato non un paga euro. L'IVA, vero? Cruciani non paga l'IVA, faccia. È un furto, dici te, un furto, sequestrare i soldi ai mendicanti per strada, è come se rubasse, un ladro è lui. Doppio furto. Dice un ladro è lui, il ladro è Bitonci. Sì. Se prende i soldi ai mendicanti. No, di più. Di più che? È proprio più che ladro, è proprio. Che? Guarda che c'è una causa in corso, eh? Chi no, non ancora. No, a me. Sono qua che l'aspetto, Non è arrivato. Perché voglio divertirmi anche con quella. Ti vuoi divertire pure con la causa di Bitonci, eh? Sì. Comunque mendicanti dei. Sono fiero io di avere queste cause, sai. Mendicanti dei. Decidiamo un giorno andiamo a mendicare a Padova. Mendicanti dei a Padova con. Sono sicuro che ci danno da mangiare i ristoranti. Dai, andiamo lì e ci divertiamo un giorno. Guest star saranno. È l'occasione di fare qualcosa che se no non hai l'occasione. Vabbè, di ma fare. Io vengo, mi tengo in disparte, non mendico perché non sono così. No, con la tua faccia mi sa che facciamo una fortuna. Sì, però io sono a favore. Soprattutto con quelli che non ti conoscono. Comunque ragazzi, mi fa piacere che siate tornati, che non vi hanno licenziati, non vi abbiano licenziati, tutti avevamo paura che vi licenziassero, c'era qualcuno che avrebbe goduto. Sei ancora in casa, Simo? Numero uno è Massimo Ferrero, ragazzi, rimettiamo il Ferrero a Sky, il presidente della Sampdoria ha detto il viperetta. Lui Mihajlovic ci ha detto ci siamo raccontati delle barzellette quando ci siamo visti e poi l'ha ringraziata per il mercato. Allora, è vera questa storia delle barzellette? Che barzellette erano? Sì, sì, è vero, perché io ho fatto 3 film a Palermo e gli ho parlato un pochino palermitano, se ne ho messa, 1-1, va bene, ci sta, buonasera a tutti, ciao Ilaria, sei la donna che fa il pallone, ma quando vuoi fare l'attrice ti faremo fare un grande film. La proposta di un film a Ilaria D'Amico, il presidente della Sampdoria, Viperetta. Allora, abbiamo ripescato, caro Parenza, Salvini e altre persone. Domani vi faremo l'elenco completo di quelli che hanno fatto il viaggio. Che porcheria. Ma perché che porcheria? Non si può andare in Corea del Nord a fare un viaggio? No, no, è vergognoso. Il leader della Lega, da razzi ormai uno si aspetta qualunque cosa. Ma il leader della Lega, vestito di grigio, peraltro, ho visto le foto. Sì, sì, di vabbè, chi c'è? Vestito di grigio? Sembra uno di quei funzionari. Cosa di grigio? Ah, perché sembra uno di quei funzionari del partito, del leader supremo. È andato a trovare Kim Jong-un, ma un sanguinario! Un sanguinario, il leader della Padania Libera. Cioè, tu dovevi. Libera. È andato. E ho visto delle mie nadoline. Ah, boss, ha sentito Salvini? Ha sentito Salvini? No, aspetti, boss, scusa. È un modo per dire buonasera. Buonasera. Non si fa così, sì. Buonasera, boss, ma dopo le discussioni. Adesso, sì, un attimo solo. Adesso col Trota. Che dice il Trota? È imparato con Squinzia. Ma che c'entra Squinzia adesso? Squinzia che fa il direttore della radio. No, non è il direttore della radio. Siamo d'accordo perché non fa più un caso a Tirana, non lo vogliono per la laurea. L'hanno messo a fare i campi, l'hanno cacciato dalla Lega, fa un cazzo sto ragazzo. Ma dietro la radio è un po' troppo. Possiamo fare, è un po' troppo dietro la radio. Chiamo Bitongi un attimo, se lo fa mendicare per strada. Ma come? Cioè, dai, il Trota è da solo, non fa un cazzo. Ho capito, ma almeno prima era in regione Lombardia, prima. L'avete cacciato voi della radio. No, cacciato, si è cacciato da solo nei guai. Stato tu. No, io non c'entro. Questa radio in ma bomba. Ha sentito. Cosa vuol dire poi 24 ore che non è mai acceso? È l'ora 24. Ma quale ora? Boss. Non mi ricordo. Senatore, l'ora. Lei non si ricorda la notte, già 24. Scusi, vabbè, d'accordo. Come i giornalisti di Roma, come te, cretini. Però, Bossi, scusi, ha sentito questa cosa di Salvini che è andato in Corea del Nord? Lui è stato in Corea, si è sbagliato. Perché, no, ha fatto bene perché è al nord. Perché Corea è al nord. Ah, forse fosse ecco andato, ecco, vedi che sei un cretino. Perché fosse andato a Corea del Sud, sarebbe stato un terone. Vabbè. Invece è andato al nord. Ha fatto bene perché è andato molto al nord. Molto bene, in Padania del Nord. Cioè, Padania a fare nord. La Padania anche lì in Corea. Allora, tra l'altro, Salvini, grazie Bossi. Salvini, vogliamo farvi sentire che cosa? Perché sulla Corea del Nord. No, ma è molto grave quello che ha fatto. È stato molto. Prendeva per il culo la Corea del Nord, cioè sì, è andato a omaggiare, se vogliamo, i papaveri della Corea del Nord. E però, nei mesi scorsi, è andato giù duro sulla Corea del Nord. Sentiamo, per esempio. Se non siamo in Corea del Nord dobbiamo votare tra un anno, questo diceva a gennaio. Si va a votare fra un anno e mezzo, decideremo fra un anno e mezzo chi e perché si candida e per fare che cosa con tutti gli alleati. Se siamo in Italia, se siamo in Corea del Nord, basta saperlo. Però se qualcuno ha deciso che dobbiamo morire, moriamo in piedi. Capito? Sentiamo, sulla legge elettorale, sbarramenti da Corea del Nord. In questo momento ad essere penalizzati sono gli italiani, non possono scegliere, non hanno le preferenze, hanno le liste bloccate, hanno sbarramenti da Corea del Nord, hanno premi di maggioranza che neanche Mussolini aveva ipotizzato, non c'è rappresentanza per le donne, quindi non capisco dove sia il vantaggio per i cittadini. Allora, Toscani, mi segnalano che 9 mendicanti su 10 comunque sono in mano a racket, che è caduto Toscani, che cazzo ha fatto? Ha mandato a quel paese, dai, anche su. Lui. Allora, Andrea da Caserta, dai. Adesso buonasera, signor Cruciani, buonasera e bentornato. Ciao Andrea, dimmi. Buonasera, allora, siccome l'altra volta il signor Parenzo, dopo che ha attaccato, mi ha insultato, no, mi sono preso la briga di guardarmi un pochettino meglio tutti quanti i parcheggi del nord Italia. Facciamo una roba. Cioè, non ho capito, scusa Andrea, non ho capito. Sì. Che cosa hai fatto nei parcheggi di tutta Italia? Non ho capito. Allora, del nord Italia, girando, perché tu sai, sei stato un mese penso, in ferie, no? No, 5 settimane. Cinque settimane, cioè io non faccio, allora, non è che faccio l'impiegato alle poste, 5 settimane. 5 settimane, in 5 settimane. Ma la faccia tua, 5 settimane. Chi, beato te. In 5 settimane avrò fatto qualcosa come penso un 10.000 km di Nord Italia. Ma come? In camion, col camion? Sì. Col camion, sì. Col camion. Allora? Allora io sfido Parenzo, sì. Sfido Parenzo a dire che i gay non sono delle persone malate, però deve venire con me. Ma perché, scusa, che cosa hai fatto? Cosa c'entra? Che cosa hai fatto? Sono dei malati, si devono curare secondo me, perché una persona che dice che può dare in affido dei figli o dei bambini a questa gente qua, secondo me il primo gay è lui, primo. Ma scusi. Seconda cosa, c'ha qualcosa nel cervello che non va. Scusi, perché una Andrea, lei fa il camionista, è uomo di mondo, vede un sacco di cose. Che sì. Cosa ha visto? Che cosa ha visto di così drammatico in questo momento? Delle robe allucinanti. Ma li ha filmati? Li ha filmati? Cosa ha fatto? Li ho anche filmati per controprova a quello che diceva Parenzo. Gente, ma guardi, però, gente gentile, aspetta, fai casa. Sono dei. Ma fanno vomitare. Ma che è successo? Che succedeva? Che succedeva? Fanno vomitare. Cioè tu quando vai con una ragazza, no? Sì. La conosci, sì. Se ti piace poi ci vai a letto, giusto? Beh sì, vabbè, d'accordo. Questa è la normalità, sì. Per fare sesso, vabbè, è la normalità, non è di qualsiasi delle persone che ragionano. Ma non è queste vero, ci saranno anche quelli che fanno senso senza conoscersi. Non è che sono malati. Ma va bene, ma ti deve piacere per me, no? Ma sì, vabbè, ci sono quelli che lo fanno per tanti, okay, motivi. Allora, Luciani, se ti dico che questi si inculano al buio, scusa, eccola la parola. Ma non succede. Ecco faccia. Dove arriviamo, voleva arrivare. Ecco, senza, lì. Ecco, ma guarda, scivola. Nemmeno si guardano in faccia. Ecco, guarda che scivola. Che questo è un fatto da epocale. È un fatto da persone malate. No, scusa un attimo, amico mio. Va bene tu. No, ma io voglio approfondire invece. Allora, non ho capito. Ma guarda che succede anche tra gli eterosessuali, come dici te, che se la fanno al buio. Cosa? Sì, che cosa? Che fanno qualsiasi cosa al buio. Al buio. Sì. A me non mi risulta. Cioè, io lei non è mai andato. Non è mai andato, scusi, non è mai andato nelle dark room, nelle cosiddette dark room. Io sono andata, no, alle dark room no, però sono andato in posti dove ci si conosce per fare quella cosa là. Beh, ho capito, ma è la stessa cosa, amico mio. No, no, Luciani, perché io guardo la persona. Ma che guarda la persona? Guarda lei. Aspetta, lei è un Luciani. Porco, anche lei che va in quei posti, no, lì. Altro aspetta genere. Un po', aspetta, guarda la persona, Luciani, guarda la persona. Luciani, ma quale persona? Lei va lì per fare i comodacci suoi, giustamente, io non è che guarda la persona. Ma scusi, lei è il mio. Lei va a Mignotte e dice che guarda le persone. Lei va a Mignotte e dice che guarda la persona. Luciani, io mi scelgo la donna, cazzo. Ma che sceglie la donna? Deve capire, storto. Ma quale donna? Ma che sceglie lei? Ma cosa sceglie? Parenzo, no, non parlarmi sotto, perché sennò non ci capiamo. Semmai sopra, semmai allora. Sopra, non sotto. No, lascia stare, Parenzo, che con me non ci vuoi, con me non attacchi. No, va però bene? Non ho capito, Andrea, ma che cosa hai scoperto in questo mese allora, di viaggio interessantissimo, 10.000 km in tutti allora, allora, io ti dico una cosa. Dimmi, se tu ti fermi, la sera, sì. Tu mettiti tranquillo, fatti dei due, in una macchina e ti fermi in un parcheggio, te ne dico uno, sì, Villa Tacchi di Vicenza, sì. Oppure nei parcheggi di Brescia, per non dirti di quelli della Toscana. Sì. Va allora, bene? Vabbè, allora che succede? Sappiamo tu che ti succede. Potrai godere degli spettacoli, guarda che tu nemmeno te li immagini. Delle cose fantastiche da dire a Parenzo. Per esempio? Così, per esempio? Allora, questo qua è per controbattere che fanno bene, che non accettano la legge per l'adozione alle ma che c'entra adesso questo? Perché c'entra? Perché sono dei depravati, perché non sanno nemmeno se sono donne o sono uomini. Non possono insegnare a dei bambini cosa fare da grandi. Ma scusa, grandi. Che c'entra questo con fanno cosa? Sesso al... che c'entra col fatto che fanno sesso al buio? Ma te ti sembra normale? Ma cioè, ti sembra normale che una persona nemmeno ti guardi in faccia, no? Ma scusa, amico mio, ma tu anche tu vai a puttane! Anche tu vai a puttane! Ma lascia perdere, ma io la puttana la guardo se mi piace o no. Ma... quello no, fanno il buio. Parezzo, rispondi tu, prego, dai. Cioè, ma non esiste ma ti rendi adesso con calma, ti rendi conto che non esiste alcuna logica tra quello che dice questo. Questo qui ci ha appena detto che va in dark room, va nei bordelli. Pare. Ma allora, tu c'hai la pendenza, che tu c'hai la pendenza gay, questo ma qua. Io non ho nessuna tendenza, ma io non ho nessuna tendenza gay. Allora tu vuoi difendere la tua categoria, a me mi ma io non difendo nessuna categoria. Caro, come si chiama questo? Andrea da Caserta. Voi non siete normali. Ma voi perché chi? Se no sareste donne e uomini. Capito? Invece non siete né donne né uomini. Vabbè, allora facciamo così però. Facciamo così, amico mio. Andrea, sì, allora, da domani tu ci racconti ogni sera per una settimana, 5 minuti, una sì, però non inventare, che mi incazzo. No, io ti faccio di più, Lucia. Dimmi. Io ti mando i filmati per 5 minuti tutte le Vabbè, bisogna vedere quello che posso mandare, però i filmati voglio, magari non si sente una mazza, perché qui non siamo in televisione, cioè, bisogna vedere quello questa che si radio, sente, si sente qualcosa. Crucia, è sconvolgente, perché quello ma sconvolgente vedi, di che? Di che cosa? È sconvolgente, perché è una persona che arriva al buio, in un parcheggio al buio, che fa? E non vede con chi interloquisce, e vede uno così. Ma perché? No, scusa, questo ma se tu vai in questo effettivamente ha ragione, dai. Ma cosa ha ragione? Ma no, se... è un dramma, è vero. Ma quale dramma? Crucia, mi senti? Allora, io arrivo in un parcheggio al buio, sì, sta una persona vicino a un albero, io non lo posso vedere perché al buio i parcheggi sono bui, no? Sì. Lo sai come sono i parcheggi? Vabbè, certo. Allora... vado vicino a questa persona, sbottone i pantaloni, glielo tiro fuori e me lo metto in bocca, secondo te che è normale questa persona? Non ho capito esattamente cosa. Io ti sto parlando di persone che dopo per Schmizio, io ho dovuto capire queste persone che persone erano, se erano malati, erano persone che all'apparenza sono normalissime. Ho capito, ma sono perversioni sessuali, amico mio, normali perversioni ma quelle sessuali. Quelle sono porcherie fatte per strada, ha ragione, è chiaro questo, dai. E tu ti rendi conto che tu vai in un parcheggio senza preservativo, senza vabbè, quello così. Che c'entra, quello è un altro discorso. Ma quello, che c'entra, e tu gli dai un bambino in mano, ma per qualcosa, per ammazzare ma guarda, bambino. Ma guarda che lo fanno pure gli eterosessuali. Cruciani, per cortesia, non scherziamo con i bambini. I bambini sono una cosa seria. Cioè, tu stai mettendo insieme due cose. Tu stai correttamente la dovete fare. Tu stai mettendo insieme, caro camionista, amico camionista, Andrea da Caserta, stai mettendo insieme due cose. Quello che hai visto, che tu pensi che sia una porcheria, eccetera. No, e l'adozione che non c'entra, sono due cose che non c'entrano una mazza. Le porcherie, quelle che tu chiami porcherie, e per me non sono porcherie, come dice Parenzo. Bigotti tutti e due. Bigotti tutti e due. Ma no, ma c'è il sesso per strada, allora c'è il sesso per strada. No, per strada così non si fa. Ma dipende se vede qualcuno o non vede qualcuno, certo, il sesso per strada con tutti che vedono, no. Cioè, perché io non ti dico che io i gay non li posso vedere, oppure c'ho qualcosa contro i gay, però che mi devono dire che i gay possono formare una famiglia con la condizione mentale che c'hanno, io secondo me attualmente. Ma scusami, però con calma, ma Andrea da Caserta, ma che c'entrano in generale i gay con le scene che hai visto tu per strada? Perché sono froci quelli che vanno. Ma che ho che c'hanno nella testa, quando c'hanno la guerra, quella che stanno in Siria in testa. Sono bombardati in testa, sono dei depravati. Di che? A livello sessuale sono dei depravati. Dici allora, tu? Allora tu hai un figlio, come fai a dire questa è una persona? Ma ci così? Sono anche eterosessuali depravati sono che hanno i figli. Vabbè, non Andrea, domani ci racconti, altre cose, caro Andrea. E Toscani, un attimo solo, pubblicità, poi torniamo con Toscani. Fermo, che c'è? Che c'è? Che mi dici che sono equilibrati mentalmente, non è così. Allora, Olivero, come giudichi questo signore? Oliviero, come... Allora, questo signore qui, dice lui, avrà una compagna, una moglie come lui. Esatto. Non solamente può adottare un bambino, ma lo può anche fare. Pensate che disastro, con un madre, una madre così, che fanno un bambino con quella testa lì. Che disastro! Capito? Capito? Capito, caro camionista? Caro camionista, dice che anche tu fai... Sei un disastro! Toscani, sei tu un disastro! Ma figurati, poveretto sei! Che... Poveretto, metti freno Mariano, metti freno d'aria. Caro Toscano. Ma non capisci niente. No, sei tu che non capisci niente, Vittori, te lo dico io. Perché se tu vieni con me, io te li firmo quello che dici tu. Che devi fare. Ma figurati, non mescolare l'amore con quelle porcherie che fai tu. Contabili, quando ne vuoi, Cruciati, io li firmo. Senti, se sei un porco, gli altri non sono come te. Le persone equilibrate che vogliono adottare i figli, quale sono? Ma che c'entra questo? Che c'entra le perversioni sessuali con quelli che vogliono adottare i figli? Un bambino, lui è cazzo. Aspetta. Come lui è pervertito, pensa che tutti lo siano. Ma sei tu il pervertito, cazzo, che quello è normale. No. Non è normale. Una persona pervertita non sei normale. Se il bambino un giorno andiamo che non lui, quando avrà fatto 13-14 anni. Ma che c'entra? Non può affrontare un discorso di niente, nemmeno di educazione con questa persona qua. Ma che non c'è? È normale. Ci sono degli eterosessuali che sono lui. Ci sono eterosessuali che sono pervertiti come sono pervertiti gay dal punto di vista sessuale. Se di perversioni si può parlare, uguale, identico. Ci sono le stesse perversioni, diglielo tu, Oliviero. Ma cosa è venuto a spiegare a uno che non capisce? Che fa perdere fatica. Capito? Fare fatica, Andrea. Perdi tempo. Andrea. Secondo me. Secondo... Perché c'è il problema, non quello che dici tu. Non perdo tempo. Vabbè, Andrea, domani mi racconti un'altra storia. Va. Di te, perché tu non sei frocio. Eccoci qui ancora con Oliviero Toscani che continua a dire che vuole portare in tribunale per poi fare una campagna sulle adozioni gay Fratelli d'Italia, scippatori, facendola pagare a Fratelli d'Italia, scippatori di una sua foto. Vladimir Luxuri ha detto prima scippatori anche dell'inno nazionale con il loro nome, con il partito che si chiama Fratelli d'Italia. Allora, però io ti voglio chiedere una cosa a proposito dei Marò, caro Oliviero. Sì. Che cosa è successo sui Marò? Che la figlia di La Torre, che oggi si è sentito male, ha detto che l'Italia fa schifo, che l'Italia è un paese orrendo, che fa entrare gli immigrati, ma non riesce a riportare il padre in Italia. Insomma, travisato anche lui. Ha sbroccato. No, ma ha mescolato le due cose come faceva il camionista, insomma, un conto l'adozione, un conto il sesso, un conto le tendenze sessuali, dai. Vabbè, io trovo che avremmo dovuto essere più decisi, così come fanno gli americani, insomma, quando succede qualcosa gli americani si riportano a casa e hanno la loro giustizia. E poi lì chiaramente non capisco questa lungaggine, il fatto che noi sopportiamo questa lungaggine, forse si può anche capire di sopportare forse la legalità, però devo avere anche un tempo, non è che possono tenere lì questa gente in questo modo. Sì, d'accordo, però quando non possiamo pretendere che come nel caso degli americani, che per reati commessi in Italia. Sì, ma fra l'altro non era nelle acque giù, mi ricordo che c'era un problema anche di. Insomma, non c'è troppo patriottismo su questa cosa dei Marò. Sì, adesso si fanno due eroi che in fondo di eroi non so, in fondo qualcuno è morto là, no? Adesso non so chi sia stato. Sì, due pescatori. Però per un incidente e quelli stavano lavorando, cioè lo Stato italiano deve difendere i suoi cittadini, no? E quelli lavoravano per conto dello Stato italiano, ha ragione Toscani, io l'ho detto anche prima, quei due lì non erano in vacanza, lavoravano per lo Stato italiano, il minimo che uno Stato serio possa fare a sparare, che hanno sparato, ma siamo noi che dobbiamo giudicare. Quindi dovevamo prendere in mano la situazione, invece si è stati un po' molli, abbiamo mandato là della gente molto possibilista, mi ricordo con questi viaggi avanti e indietro, tutti che parlavano con la Remoscia. No, ma chi era, bravo, chi era il ministro all'epoca del governo Monti che si occupava? Terzi, Giulio Terzi. Che aveva, no, Terzi anche di Sant'Agata, non è solo sì. Terzi, ci sei, ministro però Terzi. Però quello poi no, si è opposto. Terzi alla, di Sant'Agata. Si oppose però poi alla restituzione. Sì, però siamo stati molto mollacci, insomma, non, senti, non vorrei ma anche essere trattato così come cittadino italiano, penso che non è il modo. Che pensi invece della, della bellissima idea di Sgarbi di portare, di sequestrare, anzi no, questo l'ho detto io, di, bisogna sequestrare no, i bronzi di Riace alla Calabria, devi, sequestrare devi, alla Calabria i bronzi no, di Riace. Sequestrare non è una roba sì, da carabiniere, sì, sì. Cioè è, quella lì è proprietà pubblica dello Stato italiano. Oh, ok, benissimo. No? Va... lo Stato italiano, il Ministero delle Belle Arti deve fare sì che questi bronzi siano disponibili o comunque metterli in un posto dove si possa, nel posto migliore per poterli vedere, essendo due pezzi fantastici d'arte, no? Io li ho visti, è una cosa tremenda, la gente viene da piangere. Ti viene da piangere, adesso non voglio fare critiche alla Calabria, ma no, facciamole pure, facciamole pure. No, ma ha ragione Sgarbi, allora volerle portare per l'Expo a Milano. Sì, bisogna portarle in un posto visibile, infatti io li darei al Louvre, tanto sono italiani, non è che, anzi io darei tutte le grandi opere a qualcuno che le curi meglio, insomma. Intanto non è che te le possano portare via, no? Ma no, io farei un grande treno, la mia idea è di fare un grande treno che le no, porti. No, ma il treno vibra, poi non ma è che sicuro, vibra, ci sono dei sistemi. In Italia non è sicuro. Vabbè, ma comunque al di là della sicurezza, quella se la vedono gli esperti di sicurezza. Ci sono. No, appunto, non fidarti degli esperti italiani. Ti ricordi i terremoti, le robe? Vabbè, ho capito, un grande treno in tu che ma no, percorre. Si mette nel posto migliore, si mette nei Musei Vaticani, si mette ai suoi uffici a Firenze, nel posto perfetto dove c'è grande traffico di gente, dare a tutti la possibilità al mondo di vederli e non laggiù isolati in questo posto tremendo calabrese. Mamma mia, che tristezza, ma che vergogna. Sì, poveri amici sì. Della Calabria, però. No, scusami. Ma vanno sequestrati alla Calabria, dai, su, dillo anche tu. Ma non vanno sequestrati. Lo Stato deve aspetta, aspetta, aspetta un attimo. Che succede? Stato, aspetta, non è aspetta. Della Calabria. Pronto? Non aspetta, non aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Pronto? Flavia, pronto? Sì, con chi parlo? Parli con la sorella di Flavia, me la passi per favore? Sì. La segreteria particolare in questo momento, il telefono è stato un attimo sequestrato da... No, la sorella è andata un attimo in bagno ai servizi. Normalmente il telefono se lo porta dietro. No. Ah, si porta. Questo è interessante. Cioè, si porta il telefono in bagno in genere. Cioè, Flavio Vento si e porta il telefono. Qualcuno che non si porta il telefono in bagno, scusami. Beh, no, sì, però, io in genere mi porto allora, il telefono scusate, in bagno. Scusate, tu sei la sorella di Flavio Vento, giusto? Stai chiamando Flavio Vento. Però ti ripeto, in bagno uno non necessariamente si porta il telefono. Dunque, ha lasciato il telefono fuori. E noi abbiamo risposto noi. Abbiamo risposto noi. Capito? Franco e Luca. E tu chi sei? Siamo io due amici. Franco. Io Luca. Franco, lui e Luca. No, io Franco. Sai, stiamo cercando un po' di rimorchiarcela qui a casa sua. Cioè, ragazzi, ma voi parlate contemporaneamente al cellulare? Sì. Certo. Mettiamo cioè, la voce no, scusa, e ci avviciniamo scusa. Con la bocca al telefono. Esatto, siamo vedi? Due accanto vedi, guarda, con la bocca siamo... al telefono. Allora, quindi io... avete la bocca vicino vicino? Ah, bene. E beh, certo. E come si scusa, fa a parlare al telefono? Vorrei capire così una cosa. Sì. Che cosa volevi da tua sorella? Niente, volevo sapere come stava Flavia. Ma Flavia, devi chiedere ai cani soprattutto come stanno. Flavia, aspetta un attimo. Ma ogni quanto la senti Flavia, scusa? Aspetta che io busso. Io viaggio spesso, quindi aspetta non che... sono molto in Italia. Aspetta che busso un attimo. Flavia. Niente. Ma questa che sta a fare in bagno? Ma scusa. È al bagno. Flavia, c'è tua sorella, non Flavia c'è. Vabbè, niente. Io non sapevo che Flavia Vento avesse una sorella però. Sì, quanti anni hai? Come ti chiami? Vento. Io intanto chiamo Sabina. Sabina Vento. Bello Sabina Vento però, Flavia. Beh, Vento, anche tu hai fatto l'attrice, modella, cose del genere, no? Assolutamente no. Sei più brutta di tua sorella. Cioè, ti rendi conto, queste sono idee di bene in casa, ti rendi conto tu? Non ho capito. Sono quindi. Diversa. Sei diversa, cioè non sei così, diciamo, a parte che tua sorella ormai sei un po' imbruttita, No, perché qualcuno dice che è ingrassata. Diciamo che nel mondo dello spettacolo prima o poi c'è chiunque che, di quelle persone che conosci. Sì. Magari sono dei momenti down, dai, sono delle fasi della vita. Cioè, stai dicendo che tua sorella è in una fase down? No, fase beh, sì, un po' hai detto tu. Dai. È depressa, dici. Ho adottato 7 cani randaggi, dai, non è da tutti. Sì, effettivamente, guarda, ho adottato 7 cani randaggi. Sì, sono questa, su questa cosa impazzisce. C'è una puzza qui a casa con tutti i cani. C'è una puzza pazzesca, cioè, c'è una puzza infernale. Dai, di qualcosa di positivo, è l'unica che non si è mai rifatta. Sì, dai, d'accordo, però guarda, bello ce l'ha, ti assicuro che in c'ha questa tutto di aspetta, bello, Flavia, figuriamoci. Ma dove diavolo è finita? Flavia? È in bagno, pazzesco. Aspetta, Flavia? Niente, no, ma ragazzi, non sarà in bagno, sarà uscita, dai, quella no. Prendere, se ne va, poi ritorna, non ti preoccupare. No, però scusami una cosa, guarda, ti posso assicurare che in questa casa c'è una puzza infernale, io vuoi dire a tua sorella, c'è una puzza infernale di non cani, di mangiare dei cani. Non è possibile, in maniera sette cani, i pezzi li lava tutti, non è possibile. Ti stai sbagliando, fidati, non sei a casa di mia sorella. Come non sono a casa di tua sorella? Ma il telefono, chi hai chiamato? Chi hai telefonato? Io, a Flavia. Allora, hai fatto il numero di Flavia, e com'è che rispondiamo noi? Scusa, dove vuoi che siamo? Vabbè, mica... sarebbe mia sorella a casa tua, dai, e quella sarà da un'altra parte. Ti assicuro che siamo in abbiamo casa. Abbiamo preso il telefono. Quella ha detto vado in bagno e ha lasciato qui il telefono. E noi, però, siccome siamo un po' curiosoni, abbiamo risposto. Ma tua sorella, se uno ci prova, ragazzi, ci sta. È capace pure di uscire di casa e torna fra un quarto d'ora, non la conoscete, ma no. Allora. No, d'accordo. E lascia il telefono a casa. Sì, infatti, è strano che non risponda al bagno. Siamo stati disattenti. Sì, potrebbe essere uscito. Lo sciacquone, l'hai sentito? No, non l'ho sentito. È strano. Non l'ho sentito. Mamma. Vabbè, togliamoci, senti... perché sennò ci abbiamo le bocche troppo vicini, se fra poco sembriamo froci. Sì. No, appunto. No, vabbè, allora, cosa dobbiamo dire? Sabina ha chiamato. Sabrina o Sabina? Assolutamente c'è una bella differenza, lo dovresti sapere. Sabina, chiama Sabina. Siamo state le mamme del popolo romano. Sì, sì. Sabrina viene dal film, perdonami. Abbiamo 2000 anni di storia differente. Cioè, allora, quindi Sabina ha chiamato Sabina, la sorella Sabina. Vabbè. La sorella Sabina, glielo diremo. Okay. Ciao, cara. Buona serata, non vi divertite troppo. No. Beh, tua sorella non è che sia un divertimento, per carità. No, oddio, dai, non t'annoia. No, ma ci sta, se ci provo, ci sta, dici? Non credo, guarda. Ah, perché poi dici... è fidanzato o no? Non scopa, dici tanto. Senti, lo sai, non lo so. Perché io non la sento. Ma dice che piuttosto... Da quanto non la senti, scusa? Da quanto? No, non la sento da 2 giorni, ma lei ci fa molto gli affari suoi normalmente. Io mi ma avete un bel rapporto, sì. Avete un bel rapporto. Vabbè, ragazzi, siamo diversi. Vabbè. Una viaggia al mondo e l'altra sta in televisione. Che devi fare? Ciao, saremo amica mia. Di... Ciao. Io lo diciamo. Buona serata, ragazzi. Io lo diciamo, sì. Ciao. Oliviero! Grazie, Ferro. Devo dire che siete comodi. Perché con voi faccio la dieta, non mangio più. La sera meno male. Allora, questa roba qua che è andata in onda adesso è una cosa incredibile, perché sembra tutto costruito, in realtà c'è una, vabbè, poi ve lo dico vi dopo ogni tanto sentirete una telefonata, ecco. Perché c'è stata una deviazione, abbiamo preso il telefono della signora Vento, sequestrato il telefono, abbiamo fatto il trasferimento di chiamata sulla capito? radio. Quindi tutto quello che passa, con la complicità della signora Vento, ovviamente, sono le mattane del signor Benincasa, sono queste. Vabbè. Le mattane cosiddette. Ciao Oliviero, a presto, ciao. Ciao, dovevate dire questo trucco. Lo so, hai ragione, è un coglione, è Parenzo che è un coglione. No. Dovevano licenziarvi. Ciao. L'anno 21, ciao. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Chi è? Pronto? Sei Flavia? No. Ah, sto cercando Flavia, dove è sta? È uscita un attimo, guarda, è andata a fare un brunch qua dietro, ha lasciato il cellulare a casa, chi sei? Veramente, io sono Davide, un suo carissimo amico, in realtà ce l'avevamo sentiti prima e dovevamo un attimino così sentirci. Ma vabbè, tu sei Davide, quello che ha detto che è un cretino, ok. Scusa. Come? No, niente. No, ha detto, se chiama Davide, quel cretino di Davide, ha detto. Se chiama quel... Guarda, io assolutamente mi sembra veramente... È un furto questo, scusa, perché tu stai col cellulare della mia carissima amica Flavia e mi sembra che lei non si è mai staccata dal suo iPhone. È strano sta cosa. Dov'è Flavia? Scusate. È andata un attimo giù, è uscita da casa e è andata un attimo giù. Ha lasciato qua il telefono. Abbi pazienza. Io e Franco, che siamo qui insieme, abbiamo risposto in viva voce. Ah, ok. E chi è Franco? Un tuo amico? No. Un tuo fidanzato? Lui no, è Franco. Ma che fidanzato? Non è fidanzato. Io sono Marco. Marco. Ah, tu sei Marco, è lui? Io sono Marco. E Franco è lui? Franco? Sì, eccomi. Ok. E io sono chi? Io sono me. sono io. Sei Davide, sì, dai. Tu sei Davide. Sono Davide. Vabbè, Davide, lascia un tono, lascia un messaggio. Mi chiamano sempre, io sono Ulisse e lei la Maga Circe. Sì, ma vabbè, che devo dire, Flavia è squisitiva. Sì, vabbè, ma lascia un messaggio, lascia un messaggio. Un messaggio, ecco. Che messaggio? Che ti deve richiamare? Che cosa? Ti facciamo chiamare, dai, non rompere i coglioni, dai. Ti facciamo richiamare, ciao, ciao, ciao. Ciao. Allora, Roberto da Pavia, Roberto. Pronto? Vai Roberto, dimmi. Pronto, no, niente, scusate se vi disturbo, perché la trasmissione è abbastanza simpatica. Ma cosa vuol dire? No, niente, scusate. No, niente, scusate se io vi già disturbo. Uno scusami, dai, che però inizia dicendo cosa voleva dire. Roberto, no, niente. Saresti da mandare telefoni. Saresti da mandare perché a fare telefoni, il culo, amico subito. Mio, se dici no, niente. Saresti da mandare. Lo sai che puoi andare a cagare? No, oh. Ma tu dovresti andare. No, è una roba pazzesca. Richiama questo scusa, Roberto. Richiama questo Roberto. Alessandro sì, da Firenze. Subito, Alessandro. Pronto? Dimmi. Sì, buonasera. Volevo fare un commento sulle adozioni. Un commento, sì, un commento sulle adozioni gay. Allora, diciamo esprimere il mio. Ma sono pazzi, un commento sulle adozioni gay. Un Elzeviro voleva fare. Vabbè, che male c'è? Dai, allora, ma i commenti si fanno in altre cose, i commenti, lasciamoli adesso. Voglio fare un commento dai. Sulle adozioni gay, ma di quello che pensi, senza bisogno di. Voglio fare allora, un commento. Allora, io personalmente sono contrario alle adozioni gay, perché credo. Ecco, che ecco lo statement, dimmi. Il desiderio di maternità o di adottare un bambino vada contro. Il diritto fondamentale del bambino sì, di avere un il padre, la madre, sono le puttanate. Poi questo mi sembra sufficiente, insomma. Sì, basta, solo questo vuol dire. Cioè, tu hai chiamato, ti sei messo in linea, aspettato, eccetera, eccetera, per dire voglio fare un commento. E fino a qua ci siamo, d'accordo. Voglio fare un commento. Allora, voglio fare la mia dichiarazione sulle coppie omosessuali è questa. Personalmente penso che ovviamente è una follia dirlo. Personalmente penso, perché non è che lo pensa qualcun altro, sei tu che lo pensi. Deve essere riconosciuto come un diritto fondamentale. Sì. Cioè? Dovrebbe essere protetto benissimo. Cioè la vera tu dici l'unica famiglia è quella tra uomo e no, la famiglia. Io dico che il bambino ha il diritto di essere cresciuto da un padre e una madre. Beh, tu hai perso praticamente 20 minuti attese, eccetera, per dire una cosa di una ovvietà totale. Benissimo. No, perché poi non mi sembra ovvio, visto che ma è ovvio al giorno d'oggi viene messa in dubbio questo diritto, quindi mi sembrava doveroso. Sì. Vabbè, ciao amico mio, ciao. Fabio da Modena. Oh, Crucia. Dimmi, Fabio. Ho saputo che prima hai detto che sei stato a Pescara, no? Sì, allora? Hai chiamato a Pescara? Non ho capito, scusa, la parola, parla italiano, parla un minimo di cioè anche le persone qui. Hai fatto l'amore a Pescara, è scopato, che hai fatto? Ma sono affari miei quello che ho fatto a Pescara, scusa, abbi pazienza, sicuramente più di te, su questo non c'è dubbio. Beh, questo lo dici tu. Sì, poi allora? Ma pure la moglie di Razzi? Ma falla finita, sei un cretino, lo sai che sei un imbecille. Sei un imbecille. Beh, prima hai detto che è bella la moglie di Razzi. Non ho detto che è bella, ho detto che è una fantastica signora, ma tu sei malato, perché non ho detto è bella. Ho detto una signora. Tu sei malato che vuoi far accoppiare due gay con chi? Vuoi fare un bambino a due gay, donne, uomini che sia, che cazzo stai dicendo? Scusa, che fai tu di mestiere, camionista? Sì. Camionista, beh, sei spettacolare innanzitutto. Allora, spiegami una cosa. Cosa sarei io malato perché voglio far accoppiare? No, tu vuoi mettere insieme, no? Due gay e vuoi dare un bambino in adozione, giusto? Giusto? Cioè, tu sei favorevole o no? No, certo, sono favorevolissimo. È una cazzata. Scusa, cioè, caro signor camionista, ci racconti un episodio della sua vita, della sua giornata quotidiana sulle strade italiane. Che cosa vede lei nelle piazzole, eccetera, eccetera? Cosa vede? Io le piazzole non mi ci fermo. Perché? perché non mi piace. Perché? Che succede nelle piazzole? Non mi piace perché non mi piace. Secondo me a lei piace fermarsi nelle piazzole. Pure tu dicono che sei un po' gay. Guardare le piace fermarsi. Guardare. Però te dicono che sei un po' gay, capito? A me te li dicono. Come no? Ma io non mi offenderei, mica sono come te. Ma io per me non mi offendo, ma io non mi fermo in piazzola, io mi fermo in Aldo Grillo, non vedo in piazzola che cazzo vado a fare. Io. Perché? Magari c'è qualcosa di interessante in piazzola. No, se io da puttana vado a Milano a dove cazzo mi pare a me. Aspetta. In piazzola. Vabbè, ferma lì che tanto sei in camion. Fermo lì, Fabio da Modena. Cosa pazzesca, dai. Allora, è molto arrabbiata per quello che è successo ai due Marò, in particolare a Massimiliano Latorre oggi, che ha avuto una ischemia. Adesso pare che sia fuori pericolo, anche se non sappiamo benissimo ancora le condizioni. La figlia si è arrabbiata moltissimo contro l'Italia, dicendo che l'Italia è un paese di cacca, sostanzialmente, fa schifo. La figlia di Massimiliano Latorre si è arrabbiata tantissimo. Alda Deusanio, ciao Alda, come stai? Bene. Ciao, io bene. Non sono arrabbiata, io sono indignata come te, come la gran parte degli italiani. Io un po' meno, comunque. È offesa. Perché non sei offeso, sei indignato tu? No, non è che non sono indignato, è che sono un po' più cinico io, sono un po' più... Cioè mi manca... Cioè non sono appassionato, devo confessarti una cosa, non sono appassionato di questa cosa dei Marò. Cioè non sono particolarmente... Non è una storia che mi prende particolarmente. Ma anzi, che sbaglio. Abbiamo due italiani che lavoravano per lo Stato italiano e lo rappresentavano lì, sì, che sono stati presi, sbattuti prima in galera, poi adesso è vero che stanno nell'ambasciata. Il governo italiano ha sbagliato tutto nella trattativa con quello Stato ed è giusto che il governo italiano, lo Stato, riprenda i due lavoratori. Ma questa è una questione che non bisogna essere nazionalisti per pensarlo. Sono d'accordo con quello che dici tu, ma ti correggo su un termine. Non sono due lavoratori, sono due militari, due fucilieri della compagnia San Marco, due militari della Marina italiana. Caralda, ma tu sei amica di uno di loro, di due di loro? Sei... Conosco Massimiliano Latorre ed è una bravissima persona, veramente brava persona. Da lui non gli ho mai sentito dire mezza parola contro, la cosa che mi ha sempre molto colpito di tutte e due i Marò, la grandissima dignità. Io non li ho sentiti dire mezza parola contro il governo, contro l'Italia, oggi la figlia di Latorre. La figlia è una cosa, i due Marò sono altra cosa. No, sono da 26 mesi in prigione, nel vero senso della parola. No, sono in ambasciata. Abbandonati. Sì, sono in ambasciata, ma come in una prigione, vivono un grande salone con le pareti fatte di stoffa, con l'armadio senza le ante ma solo con la stoffa, in dignità e pulizia, per carità, ma non sono in un grande albergo, un paese dove ci sono 40 gradi all'ombra, lontani dalle famiglie, sono abbandonati comunque a se stessi, senza i medicinali giusti e senza, insomma, il minimo che poteva capitare era un ictus. Ah, tu dici che l'ictus è direttamente collegato al coso? Sì, anche lo stress è direttamente collegato a questa vicenda. Il dispiacere, l'abbandono, cioè, di chi è colpa? Di chi è colpa? Dimmi la verità, chi è colpa? La colpa è di chi li ha consegnati al governo indiano. Cioè la colpa dell'ischemia, abbandonati. L'ischemia porta una firma ben precisa, che è quella del governo italiano e dello Stato Maggiore dell'Esercito italiano, perché chi è che ha dato l'ordine di consegnare due militari, ripeto la parola, militari al governo indiano per un qualcosa che non si sa nemmeno se sono stati loro a farlo, e se per caso l'hanno fatto, deplorevole per carità, ma non l'hanno fatto apposta, non è che sono andati lì dicendo l'ischemia cerebrale porta la firma del governo italiano, addirittura. Il governo è Stato Maggiore dell'Esercito italiano, vuoi che lo ripeta? Ma l'ischemia, Alda, ma non è un'altra, l'ischemia può venire per qualsiasi motivo, cioè non è che può venire... No. Qualunque malattia viene se tu hai un grandissimo stress. La psicosomatica esiste, io non sono un medico, non te lo devo spiegare io, ma lo sai benissimo anche tu. Quando tu sei arrabbiato ti viene bruciore di stomaco? No, se non ti viene quello c'ha ragione il camionista. No, ma non ha lo stomaco, Cruciani, non ha stomaco. Ah, è vero, non ha neanche lo stomaco. C'ha dell'acciaio. Dai, ragazzi, noi in Italia abbiamo fatto manifestazioni per chiunque. No, ma ha ragione. Abbiamo messo le fotografie di chiunque al Campidoglio. Per i Marò non c'è stato nessuno. No, non ci sono marce, non c'è niente. Sono due anni e mezzo, ragazzi. le marce non ci sono, che però no. ogni politico si mette la parola Marò in bocca, la parola Marò in bocca ogni secondo. Non ogni politico, questa è l'altra cosa vergognosa. Perché deve essere la destra a fare le marce? Mm. O a prendersi la, come dire, il royalty, non si fa. Ma ragione, Notti, ora è partita subito. Sono militari la royalty, sono militari italiani, non sono né di destra né di sinistra, sono militari della Marina italiana. Pare che abbiano sparato a due pescatori indiani. Allora, è deplorevole, lo ripeto, ed è veramente doloroso, ma non l'hanno se l'hanno fatto, perché in dubbio anche questa cosa, l'hanno fatto apposta perché pensavano che fossero oggetti dell'attacco di pirati. Ma quindi tu non loro erano sulla nave mercantile italiana, messi apposta per difendere la nave da attacchi di pirati. Ma allora tu consideri l'India un paese sottosviluppato, non in grado di giudicare i suoi uomini? Guarda, cioè i nostri l'India uomini. Non è solo un paese sottosviluppato, e lo dico molto chiara, io sono stata in India e la cosa che io ho imparato è che non è il paese del Nirvana, è il paese dove ci sono, dove c'è il terzo uomo più ricco del mondo che vive in una casa che per quattro persone ha 60 personale di servizio, in un quartiere, in una zona dove ci sono bambini perché per calmare i morsi della fame mangiano fango. Io li ho visto i mendicanti con la peste e la lebbra addosso, ho visto i bambini chiedere l'elemosina e per dargli una mela tu gliela devi buttare per terra come ai cani, altrimenti arriva la guardia e ti tira una randellata. Cioè non c'è da fidarsi, dici te. È il paese dove ogni giorno stuprano bambine di 6-7 anni. Vabbè, ho capito, ed è una cosa ritenuta normale. Scusa un attimo. Questa è l'India. Allora, tu che cosa faresti con da 2 anni e mezzo tengono prigionieri 2 militari allora, andresti italiani a prenderteli con il consenso del governo e dell'esercito italiano. Andresti a prenderteli con l'esercito lì e portarli via? Io andresti a prendere? No, io chiamerei il Mossad, perché l'esercito italiano non è capace neanche quello. Chiamerei un ottimo servizio segreto come il Mossad e me li riporterei a casa. Si sta scaldando Parezzo su questa cosa qua. Beh, il Mossad in passato grandi operazioni fece. Ricordo solo l'operazione Entebbe, meravigliosa, quando attornarono lì a liberare tutti. Brava state usando. Bisogna invitarla più spesso a usare. Allora, io dico una cosa, i capi dell'esercito italiano che cosa faresti invece? Io voglio conoscere il nome di chi ha dato l'ordine di consegnare i 2 militari all'India. Ma quello è il governo italiano, è stato? Che... No, loro sono 2 militari, vabbè, non può essere capito, stato solo semplicemente governo italiano. Lei dice giustamente che c'è stata una catena di ordini mal rispettata. Perché non ci dicono i nomi, per esempio? E che ci vuoi perché fare la stampa nomi? Italiana? Perché la stampa italiana? Avete visto qualche servizio televisivo fatto? Adesso... È andato qualcuno dei nostri grandi inviati? In questi 2 anni e mezzo hanno avuto 2 anni e mezzo di tempo. Non ho capito, i capi dell'esercito che cosa avrebbero deciso? Ma dici quando erano ritornati in Italia? Dici tu? La prima volta di mandarli, di farli tornare indietro e di consegnare che cosa faresti con questi capi militari che hanno deciso questa cosa? Li deferirei alla corte marziale. Ma la corte marziale addirittura? Dai, su. Intanto hai visto che la Pinotti è andata lì, Sì, ho visto che la Pinotti è andata lì. Ministro di difesa, ministro della difesa. Devo dire che da quando c'è questo nuovo governo qualcosa si muove. Un neurologo ha portato lì, Un neurologo del doveva portare Maira, che è il grosso neurochirurgo. Ne ha portato un altro. Funzionerà pure quello. Però questo l'importante è un gesto importante. Il gesto minimo che dovevano fare importante. Ragazzi, su, ma quello gli viene un ictus e il ministro va e porta il neurologo. Il minimo che possa fare questo governo. Minimo. Ma senti, dovrebbe caricare notte tempo in una macchina. Notte tempo, chiamare appunto, ripeto. Il Mossad e giusto. Fargli riportare. No, ma sono d'accordo. Io su questo sono d'accordo con te. Se noi facciamo un'operazione militare dicendo ce ne assumiamo la responsabilità, mandiamo l'esercito, i servizi segreti, il Mossad per conto nostro, eccetera, cosa impossibile. Sto dicendo, ma io a questo punto sarei d'accordo. Però così, non attraverso le cose giuridiche, gli appelli, i contrappelli. Ma quali cose giuridiche? Paghiamo un sacco di avvocati inutilmente. Dai, su. Ma allora, senti, Ada, ti faccio parlare proprio di una cosa un po' più piccina. Senti, mi ricordo una cosa, però voglio dire solo una cosa. cioè io mi affiderei molto agli americani. Io non mi ricordo quando ho letto una notizia che, siccome in America sta scomparendo non so quale tipo di insetto, c'è stato un appello, guarda, adesso non mi ricordo quale, ma ti giuro è una notizia vera, hanno fatto, il presidente Obama ha fatto un appello, hanno risposto premi Nobel, attori, di tutto, c'è stato un movimento per un insetto. Sì. Ah, per le api, per le api. E l'Italia per due militari che fai? Gli portano il neurologo? Vabbè, ho capito, tanto quello se è sentito male gli portano il neurologo, che devono fare? Gli possono portare il ginecologo. Anche il Guttalax. Senti, a proposito, a parte quello che hai detto sulla litizzetta, non ne parliamo, è successo un casino sui 100 euro, la carità pelosa dei VIP, vabbè, comunque, quella ha detto che fa la carità. E tu che cosa hai detto? Ma fa la carità in un altro modo la signora litizzetto. Dice che fa beneficenza in un altro modo, che bisogna sbandierarla per forza, appunto, no? Infatti ho detto che non bisogna sbandierarla per forza, io ho detto che la solidarietà si pratica e non si predica e non ci si fa belle pubblicità. È vero, non doveva pubblicizzare nemmeno i 100 euro. Nemmeno i 100 euro. No. Però che ne pensi di questa, a proposito di cose Rai, di questa rissa pazzesca che c'è stata tra Paola Ferrari e l'altra, la nuova conduttrice della Domenica Sportiva? Hai letto, tu che sei stata una donna Rai? No, questa roba mi manca. Qua. Vabbè, ti abbraccio lo stesso. Ma ti manca un po' la Rai, ti manca? Devo essere sincera? Sì, no. Io mi manca la mia Rai, non questa. Non è la Rai. No. Questa Rai ha mandato via perfino Luciano Onde. Quello della medicina, sì, il signor Onder. Era un po' anziano, il signor Onder, però. No, comunque non è un fatto di essere anziano, è uno che per 50 anni appunto ha condotto e si è informato su un programma che non tratta di canzonette, ma di medicina. Di medicina, cioè il signor Onder. E però tu devi sapere anni per poter fare questa cosa. Non c'è dubbio. Vabbè, ne parliamo un'altra volta. Se ne trovate uno altrettanto bravo, chiamatelo. Gubitosi gli ha detto: guardi, Onder, le rinnovo il contratto per 2 mesi. Lei in questi 2 mesi prepara uno che la sostituisce. E poi lei se quello ne va. Ha detto, ma che sei a novembre se ne va. No, se in 2 mesi tu riesci a trasmettere il tuo sapere fatto in 50 anni, formato in 50 anni a un altro, me lo fai sapere che lo faccio pure io. Vabbè, a me piace però anche come donna De Usani, lo sai, sai che molto a me piace. Brava, simpatica. Sai, a me piace. Che ci stai a provare? Ma guarda, a me piacciono le persone come ho. No, tu non hai passioni, non hai passioni, non ci puoi provare. Aspetta, aspetta, Parenzo, rispondi per me. È over 50, io sono. Ah, perché tu. Donna, però, è una signora che va corteggiata in modo diverso da come fai tu. Cioè, bravo, Parenzo. Tu bravo. La devi. È una signora. Non è una quindi, roba facile. Traffico, no, è una roba che merita. C'è cioè una bella cena, chiacchierate interessanti. Che ne la sai? Conosco la signora Aldona. Vabbè, abbiamo un amico ne in comune, signor Licata. Ne parliamo un'altra volta. Ti abbraccio. Ciao, Alda. Ciao. Chi era prima? Fabio, camionista Fabio, che vuoi ancora, camionista? La signora c'ha ragione in tutto, anche tu c'avevi ragione prima quando dicevi di andare a prendere, ma noi italiani, perché sennò ce ne prendono ancora là. Ce ne restano ancora italiani dove andavano. Vabbè, fermati alla piazzola ogni tanto a guardare paese, qualcosa, va. Fermati alla piazzola. Vai a quel paese, ciao. A domani 18:30, ciao. No, io non uso mai testimonial. Posso usare voi due per atti osceni, insomma. Per atti osceni in radio, non male. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. A volte ritorno e non conoscono pietà. Radio 24. La passione si sente.